Prevedo meno battute razziste oggi. Io direi che questo è il secondo episodio di Coloni. Benvenuti. Partiamo con un po' di sigla. No, è cambiato sigla. Sì, la sigla ancora la stiamo cercando. No, il Shipping Up to Boston era perfetta. Visto che non c'è Arci, non devo sentirmi il dovere di non fargli la sigla di Perli Caragli. Cosa c'è? La sigla che stiamo appoggiando qua un'altra volta. Ho preso 7 di dadi. Non lo so, piatto. Come? 7 di dadi. Da 20 o di Star Wars? No, di dadi. Ah, ok. Sì, 7 di dadi di Star Wars sono tipo... infatti io mi ero fermato lì. Ti ho rubato 3 dadi, beh. 105 euro. E su questa musica voglio lanciare un sondaggio ai nostri ascoltatori. Qual è la voce più brutta della compagnia? Scusate, di Star Wars ne ho preso uno. Se avete risposto sì, avete visto un premio. Caro, la maglietta di Sceo. Di Star Wars ne prego uno. È bella la maglietta di Sceo, la voglio anch'io. Com'è? Mezzo cagato, si sente il ventilatore, credo, arrivate. Però sai, erano 8 euro. Perché lo pagano come danno. 8 euro, 7, 7. Allora. Niente. Io ho bisogno. Forse che qualcuno mi sostenga. Magari c'è quelli basi, tipo uno rosso, uno verde, uno blu. Aspetta, bisogna guardare quell'immagine lì, per esempio, così ci siamo in pochi. No. Beh, manco solo. Vabbè, ma vengo prima anch'io, forse un primo. Ehi! Appaio anch'io. Boh, comunque va bene. Allora, benvenuti al secondo episodio di Coloni. L'episodio... Un secondo, vorrei specificare che possono votare la voce più irritante, ma non devono basarsi su quello che brutta, dice. Non irritante. No, la voce più brutta, ma non devono basarsi su quello che dice la voce più brutta, sennò scelgo okay. Subito e abbiamo finito. Sì, è vero, sennò vinco facile. Scusa. Allora, questo è il secondo episodio di Coloni, si chiama La fanciulla del promontorio. E non sono io. Come ogni buona serie che però si... comunque c'è stata bisogno della specifica. Vabbè, ricordiamo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Tycoons and Dragons e quella di RipGDR. Adesso a caso metterò il coso e anche su tutti i migliori siti dei commissari. Abbiamo perso in battute sugli schedari della polizia, sul blog RipGDR.wordpress.com e il podcast ovviamente che è quello di RipGDR. Oggi giochiamo a Dungeons and Dragons versione 5. E come ogni buona serie che si rispetti, il primo è stato letteralmente un episodio pilota dove metà del cast viene cambiato appunto nel secondo episodio e per cui un piccolo problema con uno dei personaggi e un altro invece che ha diciamo deciso di abbandonarci per altri motivi, per diverse vedute artistiche diciamo, ma lo rivedremo in altri episodi. Quindi diamo il benvenuto con noi oggi in trasmissione a Luca Lazzarini, detto Laz, che giocherà con noi come regolare per questa campagna e come guest star, visto che non ha fatto la pilota. Oltre ma è a stato Luca preso... e a me, Andrea Giacomo Vecchi, in diretta abbiamo Enrico Cattabriga, Giulio Bosi, Stefano Gamberoni e da Marsiglia Edoardo Saladini. E direi che a questo punto facciamo il riassunto del primo episodio e magari lo fa uno dei sopravvissuti. Sceo no. Allora, giorno 6. 6 giugno. Sì, 6/6/17. Ok, rega, uno di voi tre deve fare il riassunto. Salla, Catta o Giulio? Io ti farei fare. Che bello, dai! Non voglio farlo io, voglio farlo io. No, volete rega, lo faccio io. Beh, mezzo, fallo tu, cazzo. 9/13. A quanto pare. Che brutto però scegli. Vai, farlo io, se no. No, vuoi farlo tu? Dai, allora lo fa chi è morto. La voce dall'oltretomba. Dai, Sceo, facci metti effetto rimbombante nella voce perché sei morto. più del allora, normale. Poi, ci troviamo a No, scusate, lo dovrebbe fare il bardo. Giusto, effettivamente ti sei preparato qualcosa? Ragazzi, sono impegnato. Sta disegnando. Falnapals. E diretti. I nostri eroi sono diretti, non mi ricordo, Varkard. Nel Sarvarn. Le colonie si chiamano Sarvarn. Nel Sarvarn, ok. In particolare Varkard è la loro meta, però devono prima imbarcarsi ovviamente sull'Otaria danzante e fare diversi scali per arrivare nelle terre del nord a colonizzare. E si imbarcano, qui però non si capisce bene il motivo, sono costretti a un'attesa prolungata prima di partire. Sì. Passano tipo delle ore, allora ci si chiede perché, si sale in coperta e si vede che il capitano Tarren sta parlottando animatamente con i reclutatori, diciamo, dei coloni. E capiamo, parlando col suo primo ufficiale Boldrek, giusto? No, Albrecht. Vabbè. Ah, Boldrek era. Cazzi, avevo degli appunti. Mi ricorda che dici tutti i nomi. Esatto. Vabbè, insomma, col primo ufficiale che ci fa capire che il capitano sta aspettando una cassa di sua proprietà, senza la quale non partirebbe. Esatto. Il primo ufficiale ci fa capire, indirettamente ma non troppo, che noi potremmo accelerare la questione cercando informazioni su dove può essere la cassa, recandoci alle, alla taverna il Pellicano Verde. Pellicano Verde. Vabbè, non è, cioè, i nomi alla fine, cioè, lo scrittivo. Insomma, di andare alla taverna. Certo. Ci rechiamo lì. Riassumo, raccogliendo informazioni tra un cliente, da un cliente triacolo, un po' dalla oste, capiamo lo stesso, la stessa o l'ostetrice, no? Non credo. No? Come scusa? Niente. Capiamo che potrebbe avere questa cassa la banda di Est. Lester era un la banda di Drusco. Di Drusco. Non si conosce la cosa. Già. La banda di Drusco, il quale Como è il Molo 25. Però veniamo contemporaneamente a sapere che il mercante. Che il mercante, o meglio, uomini dell'equipaggio del. Dovrebbe essere qua. Uomini del capitano hanno parlato con un mercante all'interno dell'osteria la sera prima. Giusto? Il master si fa i cacchi suoi. No, ma io so qual è la storia. Però il problema è che Giulia ha perso un foglio. Esatto, dammi anche quel tuo foglio. Un'altra informazione che troviamo è che la sera prima uomini dell'equipaggio. Uomini dell'equipaggio del capitano hanno parlato con un mercante nella taverna. Vabbè. E sappiamo che il mercante dovrebbe alloggiare alle Tre Civette. Allora passiamo dalle Tre Civette per cercare informazioni sul mercante, che si può ipotizzare sia quello che ha venduto la cassa al capitano, visto che la camera delle Tre Civette gliel'ha pagata proprio il capitano. Andiamo lì, ma ci dicono che nessun mercante, che, insomma, non, il mercante in questione non è mai stato lì. Allora ci avviamo verso il 25. Però questa è una cosa importante. Però sappiamo che è stata pagata dall'Otaria danzante proprio. Dal capitano Tarren aveva prenotato una stanza che poi è stata utilizzata da nessuno. Prenotata e pagata. Importante. No, è tardi ormai. E già. E così ci avviamo al Molo 25, dove in realtà due di noi erano già nati lì in avanscoperta. Mm-hmm. Capiamo velocemente che il posto è chiuso, sono barricate dentro tot persone, non sappiamo quante, si sente abbaiare almeno un cane, ma secondo me sono di più. Capiamo che c'è una sorta di sottomolo, cioè c'è una passerella sotto la passerella principale nascosta, e che dalla quale, insomma, si accede a un ingresso. Che Salla e Scio si sono presi subito benissimo i personaggi. Tanto è morto, non è fuori. Esatto, capiamo che da sotto appunto c'è un ingresso. Poi, scusa, l'ho strabustato, quindi sì, è vero, hai ragione, in realtà mi ha aiutato. Riusciamo ad aprire la porta che è in fondo alla passerella sottostante per entrare da sotto. Io divento, grazie ai poteri bardici del mio amico, divento invisibile e entro. Nella... sarà tutto un piano per... Dell'altra volta. o forse la in piano per portarti apposta per mettermi in trappola, può essere. E mi addentro, trovo un paio di stanze, sono delle sorte di dispense e sgabuzzini inutili, vado in una stanza al piano di sopra, ci sono 5, 6, 7, ora non ricordo esattamente quante, chiamiamole guardie, comunque uomini di Drusco, che stanno gozzovigliando. Purtroppo io, nonostante sia invisibile, mi faccio beccare, nel senso che un gradino di legno cigola. Sì, loro, e quindi loro avvertono questo rumore. Comunque eravate da molto avvertono fuori, questo rumore, però non ti vedono. Però non mi vedono. Io riesco a intrufolarmi nella stanza senza incrociare fisicamente nessuno di loro. 5 di loro escono, 2 rimangono lì. A questo punto cosa succede? Che io sbaglio, canno completamente la strategia, rimango lì e uccido i due tizi che ci sono. Ma fino lì. E fino lì tutto bene. Ci stava, solo che sei stato inculato perché c'erano degli altri tizi nascosti. Ma era logico pensare che dietro le porte di questa stanza, che c'erano altre porte, ci fossero altri personaggi, tra cui Drusco, altre 2 guardie e 8 cani. Una guardia. Scusami, una sola. Drusco, un'altra guardia e 8 cani arrivano su di me. Azzannatelo! A quel punto canno nuovamente la strategia, anziché scappare rimango lì. Come ogni buon ladro mi sacrifico alla Intanto alla sopra casa. Stavano combattendo con facilità quelli che uscivano. Facilità adesso no. Vabbè. Comunque abbiamo tutti preso. Purtroppo nella prima sessione già abbiamo ucciso qualcuno, nel senso che Sceo è morto. Il personaggio di Sceo è morto. Al piano di sopra, contemporaneamente, gli altri della compagnia hanno ucciso. In realtà era allo stesso piano. Al di fuori, esatto. hanno ucciso prima gli uomini che erano usciti, e poi dopo anche Drusco e tutti gli altri perché Drusco sfonda la porta ed espone tutti. E il combattimento finisce lì, ma a questo punto passerei la parola a chi è rimasto vivo. Allora, sì. Ah, scusa, vabbè, un attimo, come si intitola? La fanciulla del promontorio, c'è scritto. E non sono io. Allora, sì, dopo il combattimento è terminato e voi avete non sono io mai l'altro, la fanciulla. La birra è finita. No, cosa vuoi dire? Sì. Ah, oddio, potremmo prendere quelle di Arci? O si offende, le usiamo un'altra volta? Glielo chiedo. Tanto lui non ne beve. Tanto lui non la beve. Prendi qualcos'altro. Ma lui non la beve. Sana, forse, credo. No, non beve. Magari vuole esserci. Quando la usiamo, ci sta, ce la pagate lui. Pagate. Anche perché pagate lui. Allora, sì, siete entrati dopo aver sconfitto tutti, avete scoperto che Sceo, cioè Adele, era morto. E avete preso quello che trovavate, avete trovato effettivamente una cassa dove c'era scritto per il capitano T, e poi sembrava come se qualcuno avesse provato a cancellarla. E avete preso questa cassa, non c'era molto tempo, quindi avete trovato la cassaforte, preso quello che c'era dentro, che ora vi dirò. Preso a me. E quello era esatto, le bottiglie. E dopodiché avete preso una barca che avete trovato nel magazzino. No, avete preso anche Adenè. Avete preso abbiamo preso. Sì, mi pare di sì. Sì, direi sì, che sì. Ci sta. E avete preso questa barchetta, caricato tutto mentre la gente si ammassava sul molo per vedere che cosa era successo, e avete preso il largo. Solo che mentre eravate pacificamente al largo, dandovela non a gambe perché siete su una barca, e dandovela umorismo e dragons umore in dragons, avete, a un certo punto avete cominciato a sentire dei bussi provenienti dalla cassa. Dei bussi proprio? Sì, come se qualcuno bussasse dall'interno, o se ci fosse qualcosa che è il mio spirito. No, sentite questi bussi dalla cassa. C'erano dei forni nella cassa. La cassa non è perfettamente, quindi ci sta che qualche fessura uno possa respirare. Però in questo momento sentite questi bussi qua. Ma tu non sei lì. O meglio, ci sei, ma però gli attrezzi nella cassa. Da ladro. Con me ho gli attrezzi da ladro. Io inizio a intonare una cantilena. Perché no, lo dico Vest perché c'è il piede di porco. Allora, sentite, sti bussi della cassa. Però ci hanno detto di non aprire la cassa. Non ci hanno detto niente in realtà, neanche di recuperarlo. No, beh, in realtà ci hanno detto esplicitamente di non aprirla. Sì, mi sembra. Sì. è un certo punto sentite qualcosa tipo alzo la voce della mia filena per i morti. Ha detto in muto. Io ho capito in muto. Io ho capito in muto. Nessuno di voi fa niente? Boh, appoggio un orecchio alla cassa per capire che cosa sta rumore. In muto! Sembra. E inizio a sbattere anche la lancia che ha tutti i ninnoli e fa rumore. Mi sembra abbastanza chiaro. Che ci sia qualcuno imbavagliato dentro. La voce maschile e femminile. Vabbè, che non ci sono, però. Beh, qualcuno imbavagliato dentro. Non credo che da una voce imbavagliata di fuori. Beh, il capitano Tarren ha fama di essere un capitano saggio e capace, quindi saprà sicuramente. Sì, esatto, ci sarà un motivo per cui sto tizio è qua dentro. Questa è la cantina per i morti. No, aspetta, ho un'altra domanda. È Archie che è andato via cagandosi addosso, è tornato? No? Letteralmente. Sì, Archie sì, era tornato. Letteralmente. Archie mi dice, rega, ma... Ragazzi, ma... Cioè... Questo qui rischia di morire. Non so quanta aria possa avere dentro. Vabbè, facciamo. Ha dato l'esperto. Facciamo praticamente nelle casse. No. Un forellino nella cassa. In profondità. No, con un cavatappo. No, con lo stocco. In profondità. Poi dall'altra parte c'è tutto rosso. Comunque la cassa è sembra tipo inchiodata. Quindi in realtà non sembra difficile eventualmente da aprire. Vabbè, smetto la cantilena per i morti. Faccio un attimo un simbolo sulla fronte del cadavere di Adene. Chi gli consegna la tua anima per internet? Non so come riferite voi. Anche bene. Ok. Cosa fai? Però dentro, cioè, dovrei averla dentro. Cioè, se metti la... ci penso io. Tanto la cosa per riparare le robe. Prendo il martello e do un colpo alla cassa in modo da romperne un pochino. Forse nello zaino del vostro amico c'è un piede di porco. Un martello da guerra è ben più efficace. Quindi spacco una parte della cassa. Sì. Ok, allora. Dal lato da dove sembra starci la testa o dall'altro? Considerando che dentro c'è una persona, quindi sto attento. Sì, da che lato? Dalla testa o dai piedi? Piedi. Okay. Quando lo spacco, fa sapere dove sono i piedi? Perché Katta ha messo l'orecchio e ha sentito. Aspetta, ma la cassa è tipo l'altezza della bocca. Aspetta, ma la cassa è tipo lunga, quindi immaginiamo che sia disteso e quadrata. La cassa è lunga. Quindi lui è steso. È una cassa lunga. Ma magari una persona potrebbe essere tipo bara, magari di là. C'è la croce sopra. Tu fai un po' troppe domande per essere morto. Magari di lato. C'è la cassa. Così prendo bene la testa. No, è giusto per capire quello che vedrai. Al coperchio, cioè al lato del coperchio cerchi di mirare. Sì, cioè la alzi un po', tipo. Ok. Allora, praticamente quando lo fai... Riconosci il conte Draco. No, direi che puoi farlo tranquillamente. Okay. E quando lo fai... E vuoi fare una prova? Uno! Butti la cassa in mare. E anche cazzo. È l'unico che potrebbe governare la barca. No. E la barca... Allora, uno, colpisci la barca. Costa un po' la bottiglia da microfono. Okay. No, vabbè. Quella va bene. E va bene. Non è dubbio. Vi vedi che... Allora, quando lo fai, praticamente... C'è un momento tipo di silenzio, tipo terrore, e poi tipo lui fa comincia a muoversi tipo forsennatamente, e vedi che dentro c'è effettivamente una persona che sta cercando di... È un uomo? Ah, e poi tipo però effettivamente, tipo, comincia tipo, vedi un po' tipo una mano, tu l'hai fatta magari dal piede, vedi una mano che, cioè il piede comincia a muoversi, cioè lui capisci che non è legato, però è probabilmente imbavagliato. Stai fermo, adesso ti tengo. Ah, no, però effettivamente no, deve essere legato, sennò sarebbe dovuto sbavagliare. È legato. magari tutte le dita. Oppure magari... magari gli hanno tagliato le mani. Ma il sadismo che aveva... Stai fermo, amico. Magari ha tutte le dita rotte. Uma errante mortale, calmati, noi ora ti tireremo, ti salveremo. Quando gli dici così, si calma. Ah, okay. Perché sta cercando di capire quello che hai detto ed è perplesso. Come qualcuno quando gli abbiamo detto drastico. Drastico? Vabbè. Questo è un altro. Se è drastico ti stai seguendo, no. Non ridi, non sei la battuta. faccio l'idea che qualcuno ci sta pizzando. Faccio faccio luce sulla testa del martello e continuo la pensavo sulla testa del tipo, sarebbe stato più divertente. C'è uno, tu sei stato dalla parte dei piedi, sì, sì. E quindi vedi uno che tipo sdraiato ti guarda tipo così, tipo imbavagliato e tipo le mani legate. È vestito, ha delle scarpe, dei pantaloni. Sì, allora lui non vedete benissimo, vedete i piedi, i piedi sembrano delle scarpe molto logore. Vabbè, intanto magari dal coperchio, apri tutto, posso che continuare a spaccare. Però, anche se... Apri tutto. Quando apri tutto, lui praticamente si mette seduto... Però mi preparo l'azione, se tenta la fuga io non... No, non tenta la fuga, però si mette seduto e cerca di respirare. Se tira una barca in mezzo al mare, tenta la fuga. Respira col naso. Magari lui non lo sa. Col naso, si mette tipo seduto, con un colpo di reni, si mette lì a respirare così... Prendo il coso, il bavaglio e glielo tolgo. Ah, lui è proprio un momento di fatica, proprio un momento di liberazione / sofferenza, perché comunque torna a respirare. E lo vedete praticamente se è un umano. È un umano, è una persona non giovanissima, perché ha tutti questi capelli lunghi, grigi, bianchi. È vestito molto molto male, sembra proprio un barbone da vederlo. E tu sei Miccio, eh? È vestito male, ma voglio dire, i gusti sono gusti. E allora, io sono primo del vostro Venezia, però non ha sicuramente una giacca di Armani, ma siamo però una giacca molto rogo. Bar di Giorgio. È vestito particolarmente male, ha tipo ha un cappello strano che gli è mezzo caduto adesso perché si è alzato. Strano, cioè? È tipo una specie di cilindro di lana, però tipo mezzo rotto, tipo la parte rotta. Cioè, sembra proprio un barbone. Abbiamo una tazza, un bicchiere. Lui, una volta che riprende un po' di dare, dice, ah, grazie, grazie. Mi dai l'acqua del mare, da bere, vieni, dissetati. Grazie, finalmente. Un'opera di... Sì, ce l'avete, ce l'avete. Quei bastardi. Mi hanno rinchiuso qua. C'è un bicchiere, una tazza, un qualcosa in giro, o qualcosa di simile. Un elmo. Guarda cosa ho anch'io. Allora, adesso vi dico tra l'altro cosa avete trovato. Forse io avevo il kit a pranzo, guardaci. No, davvero? Un teschio di qualcuno. No, ma guardaci, io mi sa che avevo anche il kit da pranzo. Guarda il foglio protocollo. Dai, adesso con calma, guarda il foglio protocollo. Che cazzo è? Allora, per farlo bere potete usare, direi che avete tutti delle borracce. Quindi se non devo farlo bere danno in borraccia. Perché volevo, che ne so, mettergli qualche erba, magari rinvigorente o così. Troppo pusher, Giulio. Va bene, dentro la cassa ci sono vari tessuti. No, ma c'è un po' ci sono anche delle ciotole. Sperando di in futuro. Di andare in nave e rinvigorente e gli dai da bere. Non si vede. Cazzo. Ah, lui apprezza molto, beve. Cioè, prima ti guarda un po' con sospetto. Sperando in fine. Poi dopo dice: vabbè, ma avrebbe dato e beve. Sperando in futuro di andare in nave. E niente, dopo si rinvigorisce e dice: ah, grazie. Grazie per avermi salvato. Potreste anche liberarmi da queste fastidiose. Sì, e poi una fetta di culo. Ma chi sei? Certo. Prendo il martello, guardo il martello. No, vabbè. No, io non ho nulla. Cioè, da vedere così sembra proprio un barbone. Certo, nel frattempo raccontaci chi sei. Ah, io mi Quake, chiamo... Io mi chiamo Vol. Con chi ho il piacere di parlare? Chi sono i miei salvatori? Vol, noi siamo imbarcati nella nave del Capitano Tarran. E lui cercava con molta premura di tornare in possesso nella cassa in cui tu, a quanto vivi. Pare, vivi. Ah no, cioè magari vivessi in una cassa, o meglio, cioè lui inizialmente fa tipo, sono Voln, quando ha detto sono Voln, si è tipo guardato un attimo, così, e poi fa, magari vivessi in una cassa. Beh, normalmente. Purtroppo non ho questa fortuna. Certo, questa cassa qua era un po'... fastidiosa da vivere. Sì, siamo tutti in condizioni abbastanza drastiche, per questo che ci stiamo cercando di imbarcare verso un nuovo mondo pieno di speranze e di, chissà, forse ricchezze. Mm. Poi di andare nelle colonie. Esatto, il motivo per cui non ci stiamo ancora andati perché è perché questa cassa non è a bordo della nave. E vi ha mandato il capitano a cercarla? Ci siamo venuti di nostra spontanea iniziativa. E diciamo che uno di noi ha anche pagato caro questa iniziativa. Ah, ti accorgi adesso che c'è un morto. Morto, diversamente Vai. Vivo. Ah, beh, io vi sono ovviamente molto grato. Per quello che mi riguarda, come potete vedere, non ho molto, cioè per me potete benissimo prendervi la cassa, ma... Chi sai, come sei finito? Io mi chiamo Voln, come dicevo. E, purtroppo l'altro giorno a una locanda ho fatto botte con le persone sbagliate e mi sono ritrovato in questa cassa oggi. Ma mi sono stancato veramente di questa città, non, è una città che ti prende tutto e non ti dà nulla in cambio. Hai ragione, gli dèi, solo gli dèi vanno la nostra riconoscenza. A volte anche pregare agli dèi non serve, maledetti dèi. Adesso l'ammazza. E il prete un po'. E, quali dei bestemmia? Ma, sapete, potreste dare un passaggio al... Beh, certo... magari uno dei tanti. Di certo, forse ho bisogno anch'io, come voi, di un nuovo inizio. Magari potreste darmi un passaggio. Un nuovo inizio? Perché eri in una cassa? Ah, come sai che stavo detto? L'ha detto prima Giulio. Non voglio pensare. Sono finito in una cassa, penso ci abbiano messo quei bastardi dopo avermi conciato per le feste ieri sera. Ok, e perché il capitano voleva te la cassa? Poi vedete che lui ha nettamente un sacco di ferite addosso, cioè è pieno di lividi e tu mi hai fatto proprio. Faccio una prova di medicina. Io vorrei percepire intenzioni. Sì, potete liberare le mani. 3, 5, 12. Io vorrei invece provare a capire se sta dicendo una vaccata o è sincero. Vai, tira. Se trovo un dado, volentieri. No, ho perso il mio dado di Cthulhu. E 7 più... Che cos'è? Percezione? Intuizione, sì, direi che è investigation. No, insight, bravo, bravissimo. Insight 11. Tu diresti che la cosa è assolutamente plausibile, perché sembra un barbone, parla come un barbone, ha dei lividi addosso. So che tu apprezzerai. Volete farlo tutti? Sì, tutti quelli vivi. 15. Katta, vuoi dire anche tu? No, che dica quel che dica, lui e la cassa verranno consegnati al capitano, deciderà lui cosa fare. E sì, gli sembra tutto assolutamente plausibile. Quattro stagioni. Perché, cioè, effettivamente è sembra barbone. Carciofini e basta, le copro un po'. Vabbè. Che domande? Se le vuoi. No, ne ho mangiata prima una. Magari dagli il cartone. Tovagliolo. O un cartone. Oddio. No, va bene. Sì, lui vi sembra. Non vi sembra che stia mentendo. E non vi sembra che abbia cattive intenzioni. Sì, vuole semplicemente avere libere le mani perché gli fa male. È di Arci. Non l'avevo già detto, tu già fatto liberare. Lo liberate? Allento. Prima leggo la sua caviglia a pezzo della bar. Timone. E poi gli libero le mani. Legolo è morto. È una barca. Allora ci sta. Ce la sta rimando. Legarlo al morto. In questo momento siete fermi. Però siete già un po' là. Morto, cazzo. Siamo davanti. Che sì, ho capito. Vabbè, lo leghi. Ma perché mi stai legando? Non, per non precauzione. Ne ho preso molti rimancini navigando per queste acque. Ah, capisco. No, fate quello che volete. Io, come potete vedere. Grazie è già tanto se mi reggo in piedi o sulla cassa. Insomma. Ora riposati. Ragazzi, un'unica cosa, non vorrei essere un guastafeste. ma forse immagino che voi vi siete scontrati, ho sentito dei rumori mentre erano nella cassa. No, no, il tizio è morto da solo. Esatto, ha avuto un infarto. Combustione spontanea. Ecco ragazzi, io penso che potrebbe essere un'ottima idea liberarci del corpo. So che è brutto, ma libera tua madre. Arrivare in porto con un cadavere non è il miglior modo per farsi. Con due sarebbe peggio. Beh, noi arriveremo direttamente a Ottavio. Questo corpo, tra l'altro, è particolarmente fastidioso. Esatto. Rompe tanto il cazzo. Questo corpo è particolarmente. Un corpo riceverà un rito funebre. Bravo, bravo. Siamo amicissimi, Giulio. A gettarlo in mare. Beh, può essere considerato un rito. Tu pensa, Sheo, sei amico di Giulio solo quando muori. Credo che sia interesse di tutti arrivare lì prima possibile. Forse ecco, vi indica tipo un punto del porto dove c'è una sorta di spiaggetta sassosa. Dice, magari se attracchiamo un attimo lì potremmo prendere una pietra e poi legarla al corpo e farla in mare. Ma non ho capito qual è il problema che hai col corpo. Cioè, sono cazzi nostri. Sì, no, no, io lo dico per tutti noi. Nel senso che se arriviamo in porto con un cadavere, penso che avremo dei controlli. E potrebbe non farci partire. Cioè, c'è la legge detenzione illegale di cadavere? Semplicemente se tu arrivi con un cadavere, dicono che cazzo è. Cioè, c'è comunque la guardia cittadina e tutto. Vabbè, ho capito, è mio amico, ci sono affezionato, mi scoccio a buttarlo via. Va bene, è un'ottima idea. Lo copriremo con le coperte che ci sono. Lo possiamo mettere nella cassa. Sì, mi mettiamo nella cassa. Come volete, ma... Voi, ho capito, pensavi di vivere qua. Voi conoscete bene il capitano? No. Non pensate che sarà un po' dubbioso nel trovare un cadavere nella cassa? Lo toglieremo dalla cassa. Lo togliamo prima. Quando arriviamo. È giusto per arrivare alla nave. Come volete, io vi consiglio onestamente di disfarvi di questo cadavere. Perché che lo vogliate provare a seppellire sulla spiaggia o buttare come fosse meglio al largo. No, possiamo al massimo fare un rito funebre sulla spiaggia. Ok. Il fatto è che se lo trovano prima che partiamo... Potrebbe essere un problema. Oh, mi sembra un po' troppo saputello per essere uno che viveva in una cassa. Lui effettivamente vi sembra abbastanza agitato per questa cosa qua. Non capite se è perché magari ha avuto già esperienza, oppure magari conosce bene la città, oppure ha già avuto guai con la legge, chi può dirlo. Okay. Però mi sembra abbastanza agitato su questo, cioè non è che vi... Ve lo voglio imporre, però vi vuole cercare fare in modo di farvi ragionare sul fatto che bisogna fare a meno di questo corpo. E dice anche, magari, ecco, io sì, cioè se mi portate lì potrei provare proverò a parlare col capitano per chiedergli se mi dà un passaggio. Credo di conoscere più o meno il tipo, ne ho sentito parlare. Non magari è molto chiara una cosa, però tu sei nella cassa che noi dobbiamo consegnare al capitano. Io non so nulla di questa cassa. Io mi ci sono trovato oggi. Non ho idea di questa cassa a chi appartenga. Non sono sicuro che quella della cassa. C'è scritto per il capitano T e qualcuno ha provato a cancellarlo. Avete preso quella cassa lì. E fa, però magari se prendessi momentaneamente, poi ve li restituisco ovviamente, i vestiti del vostro amico, magari è più facile che mi facciano passare a bordo. Lui è vestito come un barbone, fondamentalmente. È pericoloso, non carichi rispetto ai morti. Già, vabbè, andiamo a seppellirlo sulla spiaggia. Nudo. Un funerale. Scusate ragazzi, potremmo passare a prendere posso. Scusate, se insisto sulla cosa, cioè i rivestiti, vabbè, come preferite. E lei perse il suo primo NPG. Io incazzato dico ho detto basta e sbatto con la lancia sulla nave rompendola. No, non dalla punta. E Vez perse il primo NPG. No, no, io non voglio assolutamente mettere in dubbio la vostra realtà con il vostro amico, ma vi dico onestamente, se arriviamo con il suo corpo è un grosso problema. Se ci mettiamo a seppellirlo, se voi avete, io non so voi cosa abbiate fatto, ma se ci sono altri cadaveri al molo, dobbiamo muoverci, e quindi seppellirlo ci mettiamo molto tempo. Prendete voi le vostre decisioni, se volete mi potete anche brucerà come negli antichi riti, ora taci. Grazie. Anche su questo mi preme dire che un fuoco nella porta ci farebbe notare. 13 Costituzione. Non basta. Io. Se il cazzo, non c'entra nulla. Sì, effettivamente è un personaggio abbastanza fastidioso. Sì, però è già... lui sta cercando di far ragionare per non avere problemi. Però... Oh, ho capito, però uno gli dice basta, no, non rompo il cazzo. Sì, però Vez, devi anche metterti nei panni che è un tizio uscito da una cassa che non conosciamo, quindi il fatto che Giulio lo legni ora è piuttosto... Ah, ma va bene, lui lo legna, ci sta. Lui alla fine semplicemente sta cercando di farvi ragionare. niente, il tuo PNG è appena esploso. No, vabbè. Mi faccio giusto un tandem. Ecco, che esce dalla nave. No, ci siete anche voi. Sì. Allora non posso. Per show va bene, tanto. Esatto, sì, poi fai pure. Anzi, venitemi a trovare, ragazzi. Vabbè, allora Sacred Flame. Dal fuoco alla nave. No, solo a lui. Fuoco, sono andati da fuoco. Prende fuoco la radiante. Ok. Quindi, no, sì, radiante però fa fuoco. No, è tipo sacro. È tipo una luce sacra. Ok. E comunque è solo sul bersaglio, cioè non è l'area. Salvitiero, salvezza, sua destrezza. Vabbè, tanto sempre 13. Ah, sì, adesso la destrezza, la destrezza. Non faccio. Credo. Non so, non l'ho fatto. Vabbè, tanto prendo un D8 danni. 4 danni. Spende il danno, cioè praticamente appare una luce dall'alto che lo incendia. Non lo incendia, ma insomma gli fa male. E dice, vedo che hai grandi poteri. Come volete, ragazzi, come volete. Io lo dico solo per il bene di tutti noi. Non per me. Abbiamo capito. E poi adesso lo curo. Torna nella cassa. Lo curo di 5. Curo la cassa. Giulio se la canta e se la suona da solo, praticamente. Esatto. Ah no, solo l'incantesimo per riparare la cassa. Riparo anche la cassa per l'incantesimo. Guarda quello che dici, mending. Non è un cantrip, mending. È un cantrip. Ok, perfetto. Quindi mi rimane un incantesimo di secondo livello. Lo sa. Quindi che fa? Ripariamo la cassa. Riparo la cassa con il cantrip e intanto ci avviciniamo alla spiaggetta. Sì. Mi e controlliamo di non essere troppo osservati. Arrivati alla spiaggetta, cerco se c'è della legna o qualcosa che bruci, degli arbusti. La barca. Do un occhio in giro, Vez, per vedere se c'è altra gente. C'è qualche pezzo di legna? Murale vichingo. Diciamo portato dal mare, è il classico legno portato dal mare, no? Certamente per bruciare un corpo ci vuole molto tempo. Più che altro le legna bagnate. Beh, faremo un funerale simbolico. Beh, se non posso usare Sacred Flame finché non ce ne riesco. No, la brucia di fatto. Cioè, certo che non fa fuoco. No, fa danni radianti. Puoi creare fuoco. O fa fuoco o non fa fuoco. No, fa fuoco in basso. Non fa fuoco, però ostia. Vabbè, tu potresti cantare per il compagno caduto, no? Faccio qualcuno di voi degli incantesimi che bruciano. Allora, prima di fare questa cosa qua, vi do quello che avete trovato nella stanza. Chi lo segna? Qualcuno lo segna? Segna tutto. Sì. Ci abbiamo già una pagina. No, perché è la prima cosa che troviamo. Wow, il primo tesoro. Esatto. Se no, aspetta, c'è la cosa. Una mela. No, dopo abbiamo due pagine. No. Non so quanta roba. Sono... il tesoro che noi abbiamo trovato dopo, cioè, nella cassa o nella cassa? Nella cassa, c'era una stanzino che era tipo cassa. No, c'era il molo. Sì, nella base di Drusco. Dove c'era la, questa cassa, c'era anche la okay, mi sono espresso male. E c'era una stanza... Allora, ah, cassa nel senso... Cassa con i soldi. Ah, cioè, tipo, sì, sì, un, c'era un antro che fungeva da cassa della banda. Cassa con i soldi, sì. Mm-hmm. 2300 monete di rame. Okay. Già 2300 mi ero eccitato, Beth. 1300 monete d'argento. R 1300. Perché non hai fatto tutto in oro? Perché sono fatti così i tesori. 70 monete d'oro e 2 zirconi. Monete d'oro, 2. Adesso a Drusco non so se ci hanno guardato. Che hanno un valore di 50 monete d'oro. 50 monete d'oro. Che troia. Drusco con sé non aveva niente. Non, so non se avete avuto niente. Tempo per prendere niente. Io no. Ah, Drusco, non come si chiama il Balbon? Il Balbon si chiama Voln. Va bene, quindi andate lì, fate sta roba con Giulio, che fa il Sacred Flame, ho capito, cosa vuoi farti, non lo so volete fare. Guardate la roba di Sceo. Io dico una preghiera per il compagno caduto e poi lutto il cadavere. Allora, su Sceo... trovate. No, sono contrario al lutto del cadavere. No, lo faccio io. Su Sceo no. Trovate. Possiamo prendere. Su Adenè trovate un'armatura di cuoio, una spada corta, uno stocco, un arco corto. È tutto qua, te lo passo. Con 20 frecce perché non ne ho usata neanche una. Con 40 frecce. Degli attrezzi da ladro, frecce. Due pugnali e poi uno zaino da rapinatore. Una borsa con delle biglie di metallo, 3 metri di largo. Quello fa parte dello zaino da rapinatore. Una campanella, 5 candele, un piede di porco, un martello, 10 chiodi da rocciatore, una lanterna schermabile. Mica, quanta cazzo roba a portare? Tutto questo che stai due ampolle d'olio, 5 razioni di cibo, una scatola con l'esca, o 3, 5 metri di corda di panna. Ecco, tutto questo faceva parte dello zaino da rapinatore. Poi trovate un mazzo di carte, dei dadi, delle palline da giocoliere e 3 cerchi. Oltre a questo ho trovato una trappola da caccia, dei cerchi da giocoliere, 3 cerchi da giocoliere, delle manette, dell'attrezzatura da pesca, un kit da pranzo, quindi immagino una padella e no, c'è un po' di tutto. E poi trovate È tipo una scatola che un lato fa da piatto, un lato fa da pentola. Al collo di Sceo, di Adenè, trovate una sorta di medaglione a forma di cavalluccio marino. Già. È d'oro, sembra d'oro. Soldi. Prendo il medaglione. Oh, non si lutta il cadavere! No, perché merda. Intanto Voln cerca di esservi utile e poi guarda, cioè con diciamo un po' di ansia, attenzione, cerca, si muove per guardare se arriva qualcuno. Sì, tu fai da palo mentre passa. Sì. Lo vedete, magari anche, vi sembra magari abbastanza sì, vi sembra abbastanza, cioè sì, cioè nel senso sembra che sappia quello che fa. Allora, a qualcuno servono le armi, le lasciamo ad Adenè. Vendile. Ce ne facciamo. È inutile. Seppelliamole con lui. Prendere serviranno oltre tombe. Beh, 2 o 3 cose utili ci sono. La corda di canapa la usiamo lì insieme all'olio. Esatto. Sì. Le manette, cioè ci sono 2 o 3 cose utili. L'attrezzatura da pesca, dai, mettete che tutto. Ho speso dei soldi per comprarmi quella. Madonna, ma perché quello parla che è morto? Cioè, che parla? Io mi prendo il ciondolo d'oro, ma non per rivenderlo, perché... Vabbè, non potete prendere la roba e poi distribuirvela dopo. Sì, ok, ci penserò. Ma usiamo l'olio, usiamo la canapa, magari la canna da pesca. Intanto di legno. L'attrezzatura da pesca. L'attrezzatura da pesca. Sarà una canna. Allora. Ci teniamo gli ami e la canna. Le ampolle d'olio. Le armi, a meno che qualcuno non voglia un'arma. Beh, non ci sei. Perché sono 40 frecce, cioè, se ne faranno un bel fuoco. Io non ho capito perché quello parla. Beh, è il mio equipaggiamento che sta parlando. Va bene, quindi lo bruciate? Prima Oh, però dico una preghiera, però. Sì, prego, gli metto due monete d'argento sugli occhi. No. Comunque è un po' curioso che voi vogliate fare tutte queste cose per lui, quando tipo nella scorsa puntata tipo le avete insultato semplicemente tutto il tempo. Vabbè, no, fondamentalmente non lo conoscevate nemmeno. In realtà no, non l'abbiamo insultato, semplicemente io facevo vedere che ero più bravo di lui a fare le cose che faceva lui. Allora, no, insultato no. Un cazzo a tutti da studio. Comunque, avevo un modo di autonorare. Avevo un modo di fare cagare. Vabbè, Vez però è morto, non si sputa sui morti. Esatto. E sputa. E mentre lo dico mi cade accidentalmente fuoco. Sì, però prima ok, prima stai cercando una preghiera da dire o... no, la preghiera è così, no, cercando... io dico una preghiera. Ah, dici anche tu, ok, anche tu potresti. Non so, il dio dei crostacei, ho esatto, sbagliato colore. Che l'impanatura che sta facendo, non so. Ega, no, lo sta disegnando, ma è morto. Ega, se dovete dire qualcosa, dite, se no lo proseguiamo. Lui con una preghiera detto... adesso, non perdiamo troppo tempo. Ah, lui ha detto prima di, poi non so. Posso dire qualcosa io? No, sei morto. Tu hai detto fin troppo, tra l'altro, essendo morto. Essere un cadavere. No, c'è cioè un bianco più scuro in teoria, potrei usare questo. Il mio nome riecheggerà per l'eternità. Allora, nel se, il medaglione, provate a guardarlo un po', lo prendete e basta così. Lo prendo, per ora lo prendo e basta. Ok. Non so gli altri vogliono controllare. Arci vorrebbe... Paccato, era tutto d'oro sul serio. Eh? Era tutto d'oro proprio. Era tipo paccato un po'. Allora. No, è piccolino, non è tanto grande. Sì, sì, è un medaglione. È piccolino. Sì, sì. Beh, però è figo. Mi fa un tiro... Io! Vabbè. Salla su sì. History. Io mi taglio una falange a... Okay. Cosa fai? Non buttiamolo lì, ma tempo anche la spacchiamolo. 12. Rispetto, non rubiamogli 12. Le cose, prende il medaglione, un dito. Preferisci il teschio? Il teschio è un po' ingombrante. Tu sai, non è vero che sia correlato a questo, ma sai che c'è una casata della Saradovia che ha come simbolo il cavalluccio marino. Una casata medio importante. Una casata comunque abbastanza importante. È morto. Vabbè, sono, si chiamano i palle. Non dico niente a nessuno. E stacchi una falange a Scea. Perché? Non fa nulla per fermare. Me la tengo. Faccio un tiro sui riflessi. Perché l'hai fatto? Quindi... Perché ha fame. Me lo chiedete lì in gioco? Direi di sì. Ah, ok. Per controllare che fosse morto. Sai come sono nate le pompe? Ah, le vie degli dei sono infinite, non si sa mai. Schifo, cazzo. No, come, scusa? Le vie degli dei sono infinite, non si sa mai. Già. Ma vabbè, tipo... Ma se volete chiedere altre cose, chiedete. Giochiamoci. Non ti interessa perché ha staccato. Ma smetti, non stai lì! Per controllare che tu sia morto. No, okay. Vabbè, in che senso infinito? Sono gli alluci. Nel senso, non morte. Sempre la morte è irrevocabile. Mettiti che seppellivano in questa campagna, sì. No. Ah, ho capito a cosa alludi. Vabbè, divertiti come vuoi. Bellissimo, gioco 2PG. No. Sti cazzi, temono sempre la fine. No, cioè esiste, cioè. Non di questo gioco. No, non cambia campana. No, esiste. Basta, non lo puoi vedere. Esistono altri. A che livello lo prendi? Tra tipo. Ma morto da così tanto tempo, tra un bel po'. Che cazzo non puoi conservare? È morto subito, forse. Mi basta il coso. L'osso. Ma a parte per il fatto che è Sceo. Quindi ha ciocca di capelli. Che cazzo frega? Non era meno macabro. Mi interessa di più. Vabbè. Non avrebbe più sospettato. Cioè, scusa, cosa... Allora, devo farlo io. Che cazzo è? Va bene. Va bene. E quindi bruciate sto corpo. Sì, o volete perdere? Questo bellissimo. Ma non stiamo lì a vedere che prende fuoco. Sì. Okay. Questo bello. Mentre lo state appicciando, arriva Vol e dice: ragazzi, non voglio assolutamente disturbare il vostro rito. Però... che sta arrivando una pattuglia. Sì, sì, abbiamo finito. Per cui se non, se non c'è problema per voi... Montiamo in barca e tagliamo. No, no. Montiamo e tagliamo. Termini proprio che si usavano nel Medioevo. Montiamo in barca e tagliamo. Okay, mi tolgo due monete da risare in barca. Li tolgo dal bottino di... No, togli due monete. Ah, avevo anche dei soldi. No, quello che abbiamo preso da, sì, da quello che ti ha ucciso. Avete anche i soldi, è vero. Sono scritti sulla scheda. Dov'è la scheda? Faccelo io? Vabbè, se non usiamo due monete d'oro di quelle che aveva lui addosso. Minchia, ma veramente. Avevo. Arci insiste sul fatto di tenere le monete d'oro. Beh, ormai stanno bruciando. No, vabbè, quelle lì penso siano nel... Vabbè, sono le sue, due, cioè le prendiamo, parte due, vabbè, e le mettiamo sugli occhi. Arci dice che sostiene che... 35 sarebbero meglio in altre tasche. 35 d'oro e 7 d'argento. Se le vuoi raccattare ora che sono va bene. Quindi andate, arrivate dopo un po', circonnavigate un po' il porto, arrivate da Lotaria Danzante. Okay. Diciamo dal molo lì. Va bene, chiamiamo. Com'è che si chiamava? Il primo ufficiale? Albrecht. Sì. Sì, Albrecht si vede arrivare con la cassa e vede che scompare un attimo e chiama il... Chi chiama? Chiama il capitano. Appare anche il capitano. Quindi siete all'ingresso, Francesco, diciamo, lì della la passerella per andare. Che imbarazzo. Che imbarazzo. Cosa vi dite? Chiediamo udienza al capitano. Il capitano sono io. Cosa posso fare per voi? No, ha chiamato il capitano. Abbiamo trovato questa cassa. Appena detto al capitano, chiedo... No, piano. Prima di tutto, io sono il grande Cabe Brangwine. Forse mi conosci. Ti guarda con la faccia tipo di non me ne potrebbe fregare più di nulla e poi dice: sì, mi aveva detto Albrecht che eri a bordo. È un onore averla a bordo, signor Brangwine. Ma lo dice tipo con una cioè è come se volesse essere gentile, ma in realtà non gli frega su un cazzo. Sì, vabbè, intanto... Intanto ho ucciso un drago. Abbiamo trovato due draghi. Ciccio. Scusa. Sono andato a recuperare. Esatto. Che era tenuta dalle perfide grinfie di una banda di malviventi. Penso fosse quella che stava cercando. Il capitano fa un'aria tipo di che cazzo sta dicendo questo? Per un attimo. Poi guarda, vi guarda, guarda la cassa e fa. La mia cassa. Ah sì, certo, la mia cassa. Ah, grazie, vi sono estremamente riconoscente. Poi vedete che Voln va lì e fa: capitano, la prego, mi dia la possibilità di unirmi al vostro equipaggio. E il capitano lo guarda e fa: beh, in fondo, perché no? E lo fa passare. Bene, spero che adesso ora, tutto il necessario. Poi mentre sì, e direi proprio la cassa, si rende conto che è vuotissimo. Sì, no, voi passate con la cassa, immagino anche, no? O la cosa vuol dire passare? Cioè entrate sulla nave con la cassa. Portiamo la cassa a bordo. Sì, andiamo. Esatto. Sì, lasciate lì, tipo il capitano finta che sia in realtà comincia a dare gli ordini, cioè tipo non guarda neanche la cassa, comincia a dare ordini eccetera, e proprio a andare veloci, dobbiamo muoverci, andate a riprendere gli altri, muovetevi, ma proprio veloce, proprio, e c'è un gran casino per andare, lui la cassa non la fuma di nulla praticamente, e solo a un certo punto c'è tipo Albrecht che va e la prende e si fa aiutare da degli altri marinai e la prende e dice: ah, grazie a voi, grazie ragazzi, sicuramente il capitano si mostrerà generoso. Un attimo al tizio. Chi è? Albrecht. È Albrecht, sì, puoi avvicinarti, però lui si sta muovendo. Vabbè, lo seguo. Scusa, ma il capitano non controlla cosa c'è nel cassetto. E al momento dobbiamo partire assolutamente, c'è grande fretta. Se il capitano non si può sicuro per lui pensare. Ma evidentemente è convinto che ci sia. Come ti dicevo, la cassa io non sapevo, si vede che è esattamente questa. Grazie ragazzi, grazie. Contenti di voi. E guardo, c'è fretta contro il sia, c'è un gran casino, la nave, gente che corre, va, e proprio parte, la nave parte, ma in un modo, cioè, velocissimo, cioè proprio a rinfusa, cioè fa quasi dei danni nel porto, cioè non li fa, tu no, ti catta, solo perché il capitano sembra essere veramente molto bravo. Però fa delle mosse che tu dici, vabbè, ma questo è un pazzo, che cazzo fa? C'è gente che tipo gli urla contro, dal porto, eccetera. E si parte. Notate, anzi, fatemi un perception. Oh, possiamo usare la perception. Tutti? No, i tre che sono rimasti. Ah, ok. Sei. Bello. Che cazzo, stasera ne hanno in merda. 8. Ok, niente. Va bene. No, voi partite. Dopo un po' che partite, il capitano vi raggiunge sotto coperta e vi dice: vi sono molto grato per ci possiamo considerare riposati. No, si è appena partiti, quindi proprio no. E arriva mentre partono, noi non facciamo nulla. No, però lo short rest è un'ora, quindi no. Okay. Cioè, inteso esatto, che lui arriva prima di un'ora. E lui vi ringrazia, dice in modo burbero, però vi ringrazio. Ci sono molto. Grazie. Vi ringrazio per, non so bene perché voi l'abbiate fatto, ma vi ringrazio molto. Cioè, sono morto per niente, signor. Esattamente. Vi invito tutti a cena nella mia cabina stasera. Non nota che ne manca uno. Due. Figurati tra tutti i tizi e equipaggio che avrà avuto. E anche Ambri ha detto niente della cosa. Ma forse Albrecht poteva essere sempre. Però non era. Non ha detto niente. Il capitano. E sono morto per una cassa vuota con un coglione dentro. Sì, esattamente. Per lui in questo momento, sì, non sa neanche i vostri nomi. Però ci ha invitato a cena. Capitano, scusi la arrogante curiosità. Ma scusi l'arrogante curiosità. Nella cassa, cosa dovrebbe esserci? La cassa è a far io. Grazie comunque per avermela riportata. E si rivolge poi a Sanna. Non ti conviene dirgli che è vuota. Sì. Sarebbe divertente, però. Non è vuota. Non è vuota. Dentro ci sono degli altri. Sì, forse non. Sì, te l'avevo detto, ma non me l'ho specificato molto. No. Dentro ci sono. Sembravano delle stoffe, della merce. Niente che. Sì. Però che occupavano niente come spazio, come volume della cassa. La cassa è molto grande, vi ho detto che era molto pesante. Appunto, dico. Già, te non c'eri, quindi. Vabbè, però dico, queste merci occupavano pochissimo del volume della cassa, quindi se c'era dentro ancora persona. No, occupavano un buon volume, la cassa era molto pesante, semplicemente la parte finale c'era lui così. Sì, infatti ti avevo detto che tu trovavi la ciotola perché c'erano delle teste. Però pensavo che ci fossero delle cosette. Che era piena. Sembravano dei tessuti. Allora ci può stare. Della cosa, potresti, spero che comunque ci sia stato dentro quello che era. Se dice. O se l'ha riconosciuta. Lui si rivolge poi a Cape. E dice: signor Cabe, a quanto pare avanziamo di una piccola cabina, quindi se desidera può prenderla lei. Ma che cosa? Ah, ne sarei onorato, capitano, grazie mille. Prego, allora, mi segua. Riguardo a voi, vi aspetto stasera in cabina da me. A voi, alloggiate insieme, capitano, ai cani e ai porci. Vi aspetto in cabina da me stasera per cenare insieme, in segno di ringraziamento. Grazie. E poi se ne va così con Cabe che lo segue. Beh, ma io, per me siamo delle brande, giusto? Sì, Beh, uccidiamo tutti gli altri, rimaniamo solo. Bello, sì. Per me il tuo personaggio è sempre uguale. Sì, esatto, è molto equilibrato, tra l'altro. Sì, esatto. Cosa? Ho fatto un rito funebre per un morto. Ha fatto un rito funebre, ha curato uno che aveva appena ferito. No, guarda che in realtà sta facendo un per andare al nostro un altro PG e fargli dei danni, giù. Sì, equilibrato, infatti. E lo abbiamo inserito, dobbiamo assolutamente fare un rito funebre. Questa merda fuori, in mare, vola! Non vola, allora nuota! L'altra volta seppellirlo, di togliergli un pezzo di corpo. Quindi Vol comunque a bordo. Quello anche non è cambiato nelle altre avventure, che tu ti prendi pezzi di corpi. Sì, ma di solito non era per... Cuore pulsante di Ema. Ma di solito non era per... Cuore pulsante di Ema. Va bene, Cabe, lui ti mostra questa solo per avere un trofeo. Piccola cabina sul... all'interno del... come si chiama? Il castello di Coppa. È molto piccola, c'è una giusto una cuccetta, tu ci stai ovviamente nel lettino largo perché comunque è pensato per un essere umano. Sì. Grazie, capitano. Lui ovviamente l'ha offerta a te, tu sei molto piccolo, sai che forse volendo un'altra persona potrebbe starci. Non capisco cosa vuoi... No, io lo dicevo... Voi due che siete invece rimasti giù, praticamente le brande attorno a voi sono diventate vuote. Si avvicinano a voi due nuovi personaggi che si sono sdraiati. Cioè, visto che voi in realtà siete non altre brande, di fianco a due personaggi. Iniziativa. No, mi stavo per gestire l'intenzione, ero un passo indietro. Abbiamo fatto adesso lo short rest. No, raga, ancora non hai fatto nessun short rest. Non puoi farlo? No, cioè, è passato un'ora. Ma no, non è passato un'ora, Giulia. Avete fatto brigate, eccetera, poi stesso siete partiti e siete. Puoi parlare comunque. No, non avete fatto lo short rest. Cioè, quello che intende Vez è che non siamo partiti neanche da un'ora, quindi non hai fisicamente il tempo di fare. La solo partenza occupa un sacco di tempo. Cioè, noi non abbiamo fatto nulla. Giulio è il master, devi dire sì. No, è partito molto veloce, non è passato un'ora, Giulio. Cioè, non so perché tu voglia questo. Ma rimuove lo spazio e il tempo, quindi. Queste due rosche figure chi sono? Praticamente vedete su queste due amache avete due nuovi compagni, un halfling e un umano dall'aria un po'. Muscoloso, pelato e barbuto. Chi cazzo è che... L'asfa è l'halfling? Sì. Grande fratellanza halfling, vieni nella cabina con me. Uno sei lì. Allora, parentesi, mi dici che siccome nel mio equipaggiamento avrei il trofeo di una cosa cacciata da me, cosa può essere in zona come fauna? Un topo. Tutto quello che c'è nelle montagne, ma in questo momento non è così fondamentale. È così fondamentale perché ce l'ho addosso. Ah, boh, puoi avere un palco di corna. No, okay. Ok, magari qualcosa di un po' meno. Una pelliccia di qualche cosa, zoccoli, una pelliccia. Una collana di denti. Sì, esatto. Io pensavo una collana di denti, però non so di che animali. Umani. Animali che possono essere nel bagno. Umani. Draghi. Non lo so, draghi. Dici questa? Orsi, quello che vuoi. Qualunque cosa che c'è, guarda, questa è di mani grandi, collana con gli artigli. Puoi anche avere, bambini, se vuoi, un rovo, un coso di mammut. Esatto, prendi dei denti di elfi, degli orecchie di elfi. Quello che vuoi, guarda. No, è il tuo personaggio. Questa sono barba di nano, una barba collana, di nano anche, sì. I denti di un orso. E attenzione, tieni, master. Per quando farà freddo. Ho un cappello che come fa le orecchie ha tipo le due zampe dell'orso. Ok. Sì, una roba del genere. Va bene. E niente, ora vi diciamo, ora passa del tempo, fate questo short rest. Per me no. Dipende, se io comincio a tirargli dei pugni non sto riposando. Che siete lì sotto coperta, avete tempo di presentarvi con i nuovi amici, compagni. Ma noi stavamo dormendo? No, voi siete lì, che arrivano questi due, arrivano questi tre tizi, poi arriva il capitano, sentite che il capitano li ringrazia, porta a sto Cabe. A proposito, Sceo, no, Laz, tirami, fammi un tiro di su, storia, no, ma cos'è, cosa c'è? Sì, perché io no? Storia, arcano, o storia o comunque tu nosci, hai perso la tua, la tua possibilità di conoscermi quando il tuo personaggio è morto. No, scusa, ma quello mio, l'altro ti conosce. Intelligenza, appunto. Comunque. Non tiro di intelligenza. Vabbè, io 6 dado. Ok. Quando lui si rivolge a Cabe, aspetta, 6 o 9? Aspetta. 9, scusa, però no, non penso di ambire. Quando, quando si è rivolto al signor Bregwine, tu ti pare di ricordare che ci fosse un cantastorie barra eroe che avesse questo nome. Eroe. Wow. È anche molto importante. Però in questo momento non ti ricordi troppo bene le sue gesta. Ma una. Ah, anche lui? Lo vedi? Quello ha detto fratellanza Alfa. Ah. Okay. Anzi, in effetti, visto che è un Alfin, comunque sai che lui è un cosa. Tu ti ricordi benissimo in questo momento tutte le sue gesta, però ti ricordi che insomma un nome importante. Non sei sicuro che possa essere lui, però. Lui adesso non c'è, sono solo lui. Ok. Però dal trattamento che ha ricevuto di favore, potrebbe essere. Ti sembra strano che lui sia qui. Ecco. Mm-hmm. E soprattutto pensavi fosse morto. Ok. Bene. Due nuovi compagni di viaggio. Piacere, ragazzi. Mi chiamo Quake. Anche il piacere di condividere. Salve, cosa ci fate qua? Siamo qui con lo stesso motivo per cui ci sono tutti gli altri, ovvero arrivare in una nuova terra piena di promesse e di nuove avventure. Quindi solo esplorazione? Diciamo di sì. Ok, piacere, io sono Eric. Piacere, Eric. Salve ragazzi, io mi chiamo Sirron. Ciao Sirron. Allora, per i nostri telespettatori, uno è Eric, ovvero interpretato da Lazzaro Lucchini, è un ladro assassino, roghi assassino, giusto? Sì. Ok. E invece Sirron, il nuovo personaggio di Sceo, monaco. È un monaco della via della mano aperta, della via del grande fallo. Sto power playing, bravo. Va bene, avete del tempo un po' per conversare. Non so se volete farvi qualche. Ma avete cosa una domanda? No. Visto che sono in cabina, potrei fare uno short rest? Sì, puoi fare uno short rest. No, ma non mi serve a niente, quindi tranquillo. Posso farlo anch'io? Così non più. Tu hai fatto un lunghissimo l'altro mio personaggio. Eternal rest hai fatto. Long rest. Continuerai a farlo. Bene, cosa vi porta? Eternal rest. Sì. Io sono Nick, ragazzi. Niente di particolare. Curiosità. Che bello, tutti i personaggi uguali. Ci sono delle amate. Diciamo che... Ci sono delle amate, giusto? Sì. Se io... Non puoi fare il short rest sulla mano. No. Se io batto con sta cazzo di cosa se per terra, faccio un rumore. Io lancia ci arrivo. Non ancora. Ma... No. Perché hai fissato questa lancia a sbattere? Ah, tipo dondolarmi. Sì, direi. Ah, vabbè, dai, ci sta. Questo ci sta. E niente, io magari lassù ci saranno altre bestie da aggiungere ai miei trofei. Cacciatore, qual è stata la cosa più grossa? Beh, più che cacciatore, diciamo che per sopravvivere qualcosa bisogna mangiare. E quindi eri a corto di viveri qua sul continente? Beh, non proprio, però corto di soldi. Però mi diverto a cacciare, è un ito utile al dilettevole. Beh, la bestia più grossa che ho incontrato era un orso piuttosto grosso. Come sei vestito? E tipo una tunicona, cioè una roba, no, pantaloni e maglietta, una roba così easy, e sopra ho pantaloni e maglietta. Sì, tipo pantaloni e una maglia. Non è vabbè, una maglia. Cioè, maglia. È una maglia beige, va bene? Le scritte una cazzo di maglia, pantaloni e maglia, normalissimo. E tiro fuori, mentre parlo di questo orso, tiro fuori il mio cappello invernale che fa caldo e gli faccio vedere, e questo è il trofeo che ne ho ricavato. Ah, e ho anche, la vedete, posso dire, ma si vede, una collana con i denti di cacci, anche che copre capo di dubbio gusto. Cacci solo dei quadrupedi o anche dei bipedi? Beh, in che senso? No, guarda che a cosa vuoi alludere? No, assolutamente solo animali. Il mio personaggio solo comunque l'ha detto. Non bisogna stravolgere gli equilibri della natura. Cioè, ma sei un ranger o un monaco? Una via di mezzo. Oh, porca troia. No, sono un monaco. L'inutilità. Bisogna sconvolgere gli equilibri dell'energia che la natura e il mondo ci offre, perciò perché uccidere un altro essere come me? Perché magari lui vuole uccidere te. Un essere vivente è semplicemente un essere vivente, esso sia animale, persona. Sicuramente nel caso mi so difendere. Bene, penso che ce ne sarà bisogno quando arriveremo. Stavolta forse mi so difendere. Un mortale è un mortale. La mappa! Come darò l'esploratrice. Va bene. E voi per quale motivo vi siete imbarcati? Sto cercando una persona. Prima non me l'hai detto. È una persona... Te l'avevo chiesto anch'io. Stai cercando una persona nelle colonne del nord? Sì. Beh, un altro colonna. Ma non è tipo il tuo segreto? No. Tipo il tuo... Vabbè, il segreto uno lo può dire quando vuole, poi in realtà. Sì. Se lo gioca come vuole. Certo che se la gioca come vuole, però è in teoria una roba che non vuoi dire a nessuno, vi conosci tipo da 3 secondi. Vabbè, cercare una cosa. Non vuoi dire a nessuno. Vedi una persona, aspetta, sai qual è il mio più grande segreto? Mi ricordo il mio segreto, Renato. Ma io, vabbè. Il tuo segreto è un altro. È un altro colono, si è imbarcato prima di noi. Sì, sì, penso di sì. So che è in quelle terre. Ed è proprio a Varkar dove andiamo noi? No, è un po' più in là. Sarà un po' difficile trovare. È in una comunque delle... 10 colonie del nord, credo di sì, ma no. conoscendo la persona sarà abbastanza difficile. C'è un vecchio che si dondola, una vecchia amata. Sì, Giulio sembra un vecchietto, un vecchio compagno. Io sono tipo sui 30 anni, dai, tipo un'armatura di crostacei, cioè in realtà lo rende molto peculiare. Pensavo tipo alla mia età, 27-28 anni, cioè, è plausibile, c'è assolutamente. E beh, dai, vedrai che la troverai. Ha detto un vecchio compagno, non una vecchia compagna. Ah, scusa, fate un po' più forte. Se il destino del mondo vuole che tu la incontri, questo avverrà. Oh, ti posso assicurare che lo vuole. Destino non è meglio una strana luce riflette negli occhi. Non ho detto il tuo movimento pelvico vuole raggiungere questa cosa, ho detto solo il destino è una cosa strana. E tu invece per quale motivo raggiungi il nord? Si capisce dal suo abbigliamento canchierico. Lui? Lo capisco io che è un... Ci sono dei simboli sulle mie armi, quindi lo capisco. Fammi un tiro di religione. Sono fortissimo in religione. 9. Con vantaggio. Diglielo subito. Sì, devo dirglielo subito. 4. Con doppio vantaggio. Vantaggio, non svantaggio. Giulio, non ti dicono nulla. Ma capisco che è una religione, questo dicevo. Cioè, come io per strada vedo un prete, non so se è un benedettino, un francescano. Ha degli strani simboli. Tu conta che io sono sostanzialmente un vecchio. No, potrebbe essere un simbolo di una casata. Tipo o così. Okay. Tipo lui. Chi è? Jeff Britton. No, è quello che fa American Gods. Vabbè, comunque. Ok, se lo possiamo dire, il personaggio di Archie era ispirato a Rocket dei Guardiani della Galassia. Anzi, era Rocket dei Guardiani della Galassia in D&D. Sì, in realtà però non ha fatto il background perché non aveva voglia e quindi ora tu stai dicendo. Questa lancia che ha nella punta, il simbolo di un occhio con due fulmini, però sembra tutta super incrostata di qualcosa. Non riconosci quel simbolo, potrebbe essere di una casata, come di un simbolo di una setta, di un ordine. E questo simolo c'è anche tipo sul martello della guerra. Tu non l'hai mai visto. Ho un martello della guerra. Vabbè, allora gli dico tipo... È uno scudo, e poi vedi che i miei vestiti sono abbastanza consumati, sporchi, e ho un'armatura, comunque, anche quella sembra vissuta, però comunque è un'armatura pesante. Tu, Bilotto, con tutti quei simboli della tua casata, dove stai andando di bello? Sei cieco. As, fammi un perception. No, no. Non era una domanda, era un'affermazione. 20 totale. 20 totale. Noti. Riesce a prendere una stronzata sull'armatura di Katta, ma anche un po' su quella di Giulio, che sono entrambi un po' appariscenti. E, alcune chiazze qua e là, non troppe, però uno sguardo attento si può fare caso, che potrebbero essere sangue. Cosa è successo? Siete stati aggrediti? Perché io sono 5? Rimasta lì. Diciamo che c'è stata una rissa. Tu mi chiedi perché sei cieco. Come sono cieco? È cosa è successo? Perché non sai distinguere le cose. Sono stati dei morti. Beh, diciamo che alcune persone torneranno difficilmente a casa. No, non è vero. Scusa, i miei personaggi di solito sono stronzi. Questo non è stronzo, è un enigmatico. Enigmatico. Vabbè, scusa, mi fa nobilotto, ti dico, sono sporco, tutto incrostato, no? Nobilotto, cioè... Ok. Cazzo, sei cieco. Vestito, sei cieco. C'è un'avventura al cellulare. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Cosa non vede? L'Asa aveva fatto una domanda, giustamente. Sì, sì, mi ha risposto. La vita va... La vita viene tolta. Oh, porca troia. Genitivi. Va bene, a un certo punto... L'importante è che si rispetti l'equilibrio delle cose. A un certo punto vi vengono a chiamare per la cena. Non c'è equilibrio. Voi due. Scevo almeno una volta a sessione deve schiantarsi con un altro personaggio. Comunque, no. Beh, per ora no. Comunque... non volevo arrecarti nessuna offesa. Vedo che... hai sulle spalle una vita vissuta sicuramente nel modo migliore, perciò ti chiedo scusa se ho detto qualcosa che non va. Intendevo nobilotto per il simbolo. Non mi hai offeso. Tranquillo. Solo io che sto offendendo te. Allora, spiegami il mio errore. Io sono un servo delle divinità. Ah! Chiedo venia, professi una fede. Non lo sapevo. No, perché sei cieco? Ora non più, mi hai aperto gli occhi. Non abbastanza. Aspetta. Curiosa la tua scelta allora di andare all'Ode per c'è diffondere qualcuno che ha bisogno di fede. E per diffondere il verbo del tuo dio? C'è sempre qualcuno che ha bisogno di fede. Per qualcosa in cui credere, magari alcune persone li aiuta. Il potere degli dèi è reale. Non è questione di credere o non credere, è questione di accettare o non accettare. Non c'è provare, c'è fare o non fare. Okay. È Yoda. Va bene. Rispetto comunque le persone sagge che hanno da dispensare consigli. Vi vengono a chiamare per la cena voi due, e quindi cenate col capitano. Non si lasciano senza... No, voi no, avete la sbobba che hanno tutti quelli lì. Potete fare un po' di così di conversazione con quelli che ci sono sotto. Ci vedremo dopo cena, nuovi compagni. Ma notate che loro vengono, come già prima, che venivano chiamati, e questo mi sembra strano, perché sono tutti lì, cioè, questi chi saranno che avranno un trattamento di favore? Forse qualcuno che gli ha aperto. Anche una babbo. La cena è nella cabina del capitano. Ci sono il capitano, i sottufficiali. Albrecht. Sottufficiali sono, mi sembra, o due o tre forse. Qualche altro membro dell'equipaggio, non tanti. E i due reclutatori. Siamo liberi di conversare. Di arrivare, cioè non ci perquisiscono. Cioè. Spero che tu non mangi con tipo la lancia così. No, per mangiare l'appoggio, però fino alla sedia... No, l'appoggio accanto, non so come porcare. Però fino alla sedia ci arrivo con la lancia, poi l'appoggio. Sai che ti rimane sempre qualcosa tra i denti. No, non venite assolutamente perquisiti. Il prossimo Thunder Wave è tu. Non ho fatto ancora niente. C'è anche Cabe. Che sta qua a fare qualcosa. Che sembra particolarmente riposato. Come se avessi potuto fare un long rest. Questo ti provoca molta invidia, Giulio. Oh, bella rega, come si sta nell'alloggio? Si sopravvive. Ottimo. Sono arrivati due nuovi. Hanno attaccato pezza. Ma guardate in testa tu lui. Secondo me uno non sopravvive fino a... Ma chi sono sti due nuovi? Ho usato il chiostro per le schede. Beh, uno è un piccoletto non, come te. Non lo so, uno non ha parlato molto, ma sì, è della tua stirpe. È una feccia come te, dici così direttamente. La cena è una cena moderatamente ricca, non particolarmente squisita, ma per voi che siete dei vagabondi schifosi, appunto per te, Katta, questo è comunque un pranzo di ottimo livello. Questa sbobba è la sbobba migliore in generazione. Durante la cena, scusa, dei vari commensali, il capitano Tarren non dice praticamente nulla. Mentre sembra molto allegro e chiacchierone Boldrek, che è uno dei due reclutatori, che si interessa anche molto a chi siete voi. E prova appunto a sembra uno molto, cioè, allegro, però anche molto volgare, diciamo, ogni tanto fa dei rutti a caso, impreca o ride in modo grossolano, sputacchiando. E fa, ma quindi voi chi siete? Come mai vi trovate oggi qua con noi? Ho sentito che avete fatto un servizio al capitano, insomma. Ma non quel tipo di servizio. Se capisci cosa intendo. Ho capito, grazie. Hai capito? E tu? Belli questi crostacei. Stava meglio la bomba giù. Esatto, sta già su. Lui che serviva alla cassa. Devo ringraziarvi molto anch'io, perché con l'arrivo della cassa siamo potuti finalmente partire. E poi vedete che lancio uno sguardo al capitano, che però non incrocia il suo sguardo assolutamente. Ma scusa, è bellissimo quanto tu faccia domande quando non no, ci no, sei. Domanda al master, i reclutatori. Sì. No, i reclutatori ci hanno già in parte visto barra conosciuto comunque prima del viaggio. In particolare Boldrek, ci hanno reclutato loro, in teoria. Sì. In particolare Boldrek, voi lo conoscete, okay. Più o meno. Sì. Sì, cioè, ci abbiamo parlato tre secondi per dire... Sì, tutti e due i reclutatori ci avete parlato, sapete che Boldrek è appunto un così, diciamo, sembra un buon tempone, però anche un po' rude, insomma, a modo suo. Mentre l'altro, che si chiama Fer, è uno che sembra sempre avere la stessa espressione sorridente, gioviale, ma dice pochissime parole. Cioè, ma come ci ha reclutato? Semplicemente ha fatto un tipo banchetto, chi vuole salire? Sì, cioè in città loro vanno nei vari porti spesso e fanno sì. Sì, vanno un po' in giro, cercano magari, se riescono, vanno a sentire dalla guardia cittadina, roba così. Nel caso vostro sì, cioè voi cercavate li cercavate un po' voi e li avete incontrati e loro vi hanno detto perfetto, lotta c'è lottare, perché tanto tutti voi volevate di fatto andarci, quindi perfetto, c'è lottaria, sì, siete benvenuti, datemi i vostri nomi, presentatevi qui. Quindi sì, cioè, loro vi hanno già visto, però sai, vedono tanta gente, sì, quindi sì, probabilmente sì, non si ricordano di voi più di tanto. Magari che si trovano anche su di Katta un po' per via della sfarmatura. E di Cabe, perché è Cabe. E di Cabe. Ah sì, e poi esatto, dice... Ah, tu cosa gli dici? Katta, scusa. Il capitano, la cui fama procede, quindi ho pensato fosse giusto aiutarlo in questo... Misunderstanding. Avete fatto molto bene. Ma molto se bene. Posso chiedere, cosa c'era di così importante in quella cassa per ritardare la partita? Da chi lo chiedi questa? A Boldrek, io ti dico sottovoce. Sì. Lui dice, saperlo, sarebbe veramente bello saperlo. Risponde anche a un livello di voce che tu reputi un po' troppo alto per il tipo di conversazione che stai facendo, come se lui insomma volesse farsi in qualche modo sentire dall'altra parte del tavolo, dal capitano. E poi una cosa strana, sempre sottovoce. Quando siamo andati alla taverna dei tre civette a cercare informazioni appunto, su questa cassa, c'era una stanza prenotata a nome del capitano Tarren, e in quella stanza ci ha detto la receptionist che non si è presentata nessuno. Tu tieni presente che c'è il capitano dall'altra parte quando dici sì, parlando sottovoce. Ti guarda studiandoti un po', E poi sorride e dice: ma chissà poi il capitano che, ah, che frequentazioni può avere. Sicuramente avrà avuto piuttosto. Vedo però che ve la cavate bene con le indagini. Sì, siamo abbastanza esperti. Ma vi conoscevate già, quindi? No, ci siamo incontrati qui per la prima volta. Ah, mi è sembrato un gruppo affiatato. E poi tra di noi c'è anche qualcuno di veramente illustre, mi dicono, e si rivolge a Cabe. Magari potresti allietarci con una delle tue storie, grande cantautore. Magari a fine pasto. Tipo, vedo una chitarra lì appoggiata alla parete. Sì, anche altri commensali applaudono al fatto che tu sia Cabe. Tranne il capitano, Cabe. Che sembra che non è assolutamente niente. Quanto è previsto che duri in viaggio? Per i dettagli potrei lasciare al capitano, ma tendenzialmente dovremmo metterci una settimana per arrivare all'isola di Eric. Per parlare. Sì. No. Ti dice, dovremmo metterci una settimana per arrivare all'isola di Eric. Poi da lì 4-5 giorni, se tutto va bene, per arrivare all'isola di Aldrich. No, per uno vecchio come lui è lungo. 3-4 giorni. Vabbè, e poi... tra una ventina di giorni... È vero che tu sei ancora più vecchio, però. Io sono più vecchio di Giulio. In linea di massimo. Poi Alfredo non ti fa male alle ossa. Correnti, dalle tempeste eventuali. Ah, lo conservo. Speriamo che il capitano... Ci guidi sicuro su questa rotta. Se avete bisogno di un navigatore, io ho una certa esperienza, posso darvi una mano. Sì. Hai sentito, capitano? Si rivolge al capitano. Qua c'è un altro nostromo, se hai bisogno non ti resta che chiedere. Lui tipo alza gli occhi e annuisce, però tipo... Non me ne frega un marrone. Sì, esatto, tipo così. Quindi anche tu sei un lupo di mare, insomma. Certo, non si nota. Direi più un gatto. No, assolutamente sì, infatti volevo chiederti di da dove venisse questa bellissima... Oh, ho scoperto che i carapaci dei crostacei hanno un'ottima funzione nel deflettere colpi che la mia ogni tanto carente attenzione può lasciare sfuggire. Ma parla così un pirata! Io nella mia ignoranza... Io nella mia ignoranza ho sempre mangiato quello che c'era dentro e buttato via il resto. Ma quando e guarda riposta il suo amico, ride, l'amico ridacchia. Sono d'accordo. Ma sai, sono dei trucchetti che impari quando ti lasciano abbandonato in un'isola deserta. E sei fuggito? Un'isola deserta. Con le tartarughe di marina. Stuggi di marina. Raccontaci, forse il signor Bregwine ha trovato un rivale alla sua altezza. Raccontaci la tua storia, marinaio. Piano. Lui ha ucciso un drago. Senza ci mancherebbe. Due draghi, scusa. Solleva il bicchiere a te dicendo a grande Cabe Bregwine. Tutti, Cabe. Tranne il capitano che non gli è piaciuto. Beh, purtroppo la mia storia è un po' più comune rispetto a quella grandissima storia del mitico Cabe. Ma in poche parole, la ciurma nella quale servivo ha subito un ammutinamento e ero dalla parte sbagliata, a quanto pare. Fastidioso quando succede. Esatto. Però me la sono cavata egregiamente. Bene, mi fa piacere sentirlo. Beh, mi sembrate tutte persone di valore, sarete molto utili nelle nuove colonie. Secondo me, se vi giocate bene le vostre carte, potreste diventare persone di spicco. Parlaci della situazione nelle nuove colonie. Invece la merda là sotto. Ragazzi, non vi indorerò la pillola, non so se si diceva all'epoca, probabilmente no. non vi caramellerò la mela. Okay. Diciamo che se siete venuti qua per... Sì, non vi indorerò il pitone. Se siete venuti in cerca di, diciamo, di ricchezze, beh, non lo so, magari un giorno, ma non adesso. Bisogna, diciamo, lavorare molto, ma se uno lavora duro può avere un ruolo di spicco nella comunità. Qua partiamo tutti un po' dallo stesso livello. Mentre parlano, prendo il mio liuto e comincio a cantare una delle mie canzoni. Ho capito, sì, tutti apprezzano. Quando Baldrick fa questo discorso del partiamo tutti dallo stesso... Ah no, cazzata, ignoratemi. 24, Vet. Mamma mia, tutti sono super agitati da questo, da questa, da questa, da questa melodia, da questo canto gregoriano. E allora, diciamo, alcuni membri dell'equipaggio, qualche mercante che comunque viaggia con voi, si complimenta con te e un mercante ti dà una moneta d'oro. Se la, cioè, ti chiede se la vuoi, se non è un'offesa per no, te. Stasera è un'offerta. Ah, grande, grazie. Alla memoria di chi ci ha lasciato. Un vero piacere condividere il tempo con te. Alla memoria di chi ci ha lasciato. Questa la dedico a... come cazzo ti chiami? Adene. Adele. Adene. Anzi, sì, io dico proprio Adele. Compagno no, che ci ha abbandonati recentemente. Dimmi una cosa, Lobo. Hai visto l'immagine, Vez? Va bene? Non ho visto un cazzo. Ora la guardo. Come funziona? Ah, poi ti farò l'articolo appena possibile. La società... La nave, sì. Carina, ci sta. Come funziona la società dei coloni? Chi amministra la giustizia? E, insomma, c'è, se c'è qualcuno, o è completamente. Ma no, diciamo che ogni comunità fa un po' storia a sé. Okay. Perché la verità è che alcune colonie sono molto lontane e un po' sperdute. Quindi. Dipendono tutte fondamentalmente da Varkard, nel senso che lì è la parte principale, è il porto principale. Quello che io vi posso consigliare una volta che arriverete lì è, ci sono, diciamo, alcune colonie dove è meglio stare rispetto ad altre, per una semplice questione geografica, se volete, nel senso che sicuramente essere in un posto un po' sperduto come Tana dell'Orso è un po' più... complesso da gestire, però sicuramente voi potreste essere, ecco, degni della cosa. Però forse quando arriverete, se, diciamo, se qualcuno vuole mettere una buona parola per voi, magari andrete nella colonia migliore. Quello che può... perché non siamo liberi di andare nella colonia. Ma una volta che arrivate lì, diciamo che venite smistati nelle varie colonie a seconda della necessità. Si vede un po' quello che sapete fare, vi verrà chiesto un po' quello che sapete fare, e a seconda della necessità, diciamo, venite mandati in una colonia o nell'altra, a seconda di quanta richiesta ci sia. Può anche essere che in una colonia hanno richiesto tanti uomini, ma non tutti in una. Lì dipende. C'è modo di impogliare questo smistamento? Sì, penso che ci sia assolutamente, ma ne parleremo durante il viaggio, non ti preoccupare. Mi sembri uno che ha già capito come funziona. Vecchio lupo di mare. Giar. E vabbè. A un certo punto Ulbrich chiede a Giulio, che è stato sul tuo lato, ti chiede sottovoce, ma non ce n'era un altro di voi? No. Aspetta. Quando siete a bordo, non mancava qualcuno di voi? Fuori, il personaggio di Arci è venuto lì con noi a cena. Sì, giusto, ben detto Giulio. Sì, il personaggio di Arci è lì con voi a cena, assolutamente. Sì. Però sì, quando già eravate tipo giù, lui sapete che soffriva molto. E lui, il personaggio di Arci, molto di distempeglio. Il personaggio di Arci è lì con voi. È arrivato su, sì, ha mangiato un po', però dopo un po' non stava benissimo. e ha chiesto di allontanarsi. Tutte le volte. Sì, un altro ci stava, era con noi, diciamo, nel nostro gruppo. Ha avuto un ripensamento. Ma abbiamo avuto uno scontro e... spero niente di serio. È passato no. La vita al di là di questo. Quindi una cosa molto seria. Cavolo, mi dispiace, come è venuto a cadere questa cosa? I cani. Scelte sbagliate. Ma che scontro, che tipo di scontro? Una banda di criminali che avevano la base lì al porto. E Drusco, mi pare. Sì, boh, può essere. non sono così avvezzo. È rimasto bloccato, circondato dai nemici. Capisco. Beh, mi dispiace molto. Va bene, se non so se volete chiedere cose particolari, se no la cena prosegue in questo modo. Il capitano a un certo punto cerca di disfarsi più o meno di voi, in modo più o meno brusco. Più o meno brusco. No. Quindi potete tornare giù. Se posso, cerco di raccattare, un boccale di dormire. È fighissimo, perché se ingrandisci sulle nuvole sono fatte a foglia. Dici l'immagine? Sì. Dire sono fatte a foglia. Ingrandisci. Sì, ho capito. Sì, sembrano delle foglie, capito? Sì. Sono tipo foglie d'acero. Ok, il ma cosa hai disegnato tu? Sì, bravino. Questa immagine di cattivo Sallino. Va bene, no. Sì, puoi prenderti un bocchele di idromale. Non posso niente. Un boccale di idromale. Figo. Va bene, quando scendete giù, notate che c'è una specie di gattino che in un angolo dalla sta rimettendo tutto quel poco che ha. Amico mio, voglio giocare ad Age. Urban Heroes. Provo a dargli qualche erba da farlo sentire meglio. Quando ti avvicini per proporgli qualcosa, ti allontana, non trattiene e ti svomita sulle scarpe. Che dolce. Thunderwave. Io sono il solito personaggio. Vabbè, prova gli lascio tipo una tasca, un sacchettino con qualche erba. Prova nel caso anche solo odorare queste, dovrebbero più o dopo meno calmarti. Dopo che avrai lavato i miei stivali. Cioè, che non gli dice che quelle erbe sono la ma gli viene solo un altro. Sì, sì, nel frattempo stai pure con oltre altro la navata. Che questa volta no. Oltre la navata continua. Ah, se dimenticati di che le erbe sono lassative al massimo. No, non sono. La murata. Intanto, sotto coperta, i nuovi soggetti stanno magari conversando anche con gli altri. Soggetti. Sentivano gente che diceva cose simili a quelle che Boldrek ha detto loro. Io sono il flauto. Tu sono il flauto. Cioè il fatto che queste colonie, c'è chi dice che sia bellissimo, c'è una terra nuova per noi, una nuova opportunità. E c'è anche chi dice, ma quel che sentivo dire, comunque lì sono solo pietre e poco altro, è freddo. Io chiedo se qualcuno di quelli nella stanza è già stato là o sulla prima spedizione. Ma c'è qualche marinaio dell'equipaggio comunque che è lì con voi e dice che loro sì, spesso ci sono, sono andati lì, non è che sono andati nelle varie colonie più di tanto, però alla colonia principale sì. Dicono che alla fine, ormai nel corso degli anni, è diventato un piccolo porto come un qualsiasi altro porto, ma da quel che sanno le altre colonie in realtà sono poco più davvero o addirittura meno di piccoli villaggi, sono veramente dei disputi. Quello invece le voci che girano in questi porti riguardo le terre più interne, quali sono? Ecco, sentite lì cose, c'è chi narra di leggende, di mostri, di ghiaccio, leggende oscure, di antiche forze primitive. Dicono soprattutto che lì durante l'inverno è praticamente sempre scende questa notte oscura e praticamente a quel punto escono fuori i veri mostri, però c'è anche chi dice no, dire cazzate, se c'è il vero mostro è l'inverno, cioè l'inverno sta arrivando. L'unica cosa che dicono tutti è preparatevi perché lì adesso noi arriviamo e sarà caldo, ma il caldo vorrà dire che è molto più freddo di quanto voi avessi sentito qua. Ok, quindi, ma io il mio cappello. Quindi preparatevi per il freddo. e poi bisognerà sgobbare, secondo i gatti che sentivano i marinai. Poi ci sono altri che invece dicono no, no, no, comunque lì è un'opportunità per tutti, c'è tanta di quella terra, cavolo, ci sarà un appezzamento di terra anche per me. Cose così. Okay. E c'è anche chi vi invita a giocare con loro, ma chi ha carte, chi ha dadi, volete partecipare? Io sono il blau. No. Ok, no. Arrivano anche gli altri. Io chiedo, però un po' parlo con lui. Cioè tipo gli chiedo, ma tu sei sei qui, lui non ha gli occhi aperti. Tu sei qui in maniera volontaria o no, non sono qui in maniera volontaria, sono qui per volontà di un'altra persona. Ah, ti hanno costretto a salvare? No, non sono stato costretto, però sì, sono qui per volontà di un'altra persona. Ah, ok. Sei tiri? No. Sei cieco, non vedi. Posso fare un percepire, cioè come per... Direi no, di no. Di solito tra giocatori no. No, e non so. Se vuoi farti il master, giuro, ci fai un fresh. Allora, riposo breve, riposo breve. Allora, direi... E torno a suonare il flop. Sì. Gli altri poi dopo tornano. E se senza non... saperlo, sono un motivetto che conoscevo, che guarda caso ho scritto. Se non volete fare cose particolari, andiamo è in una cabina da solo, a se cazzo. Un po' veloci nel viaggio. A fare un altro long rest. Ma mi metto sulla macchina dondolando. Vuoi fare uno short? Lui fa 3 o 4 allora long rest. No, per la concentrazione dell'equilibrio, non so se può riposare. No, infatti no. Se stai in equilibrio così deve. Va bene. Sto in equilibrio. Tieni la concentrazione. Devi tenere la concentrazione. Il viaggio prosegue. Ci metto 25 ore a bere un boccale. Nei giorni che seguono, Cabe è un ospite fisso. Lo incontro. Finalmente. Lo puoi incontrare durante i giorni se lui se decide lui di passare del tempo con voi. Cabe fondamentalmente gli dice il capitano, gli quando gli ha dato la cabina, ha detto che praticamente sarebbe dato una cabina e fino almeno all'isola, alla prossima tappa, sarà sua. Poi vedrà se c'è bisogno che un altro, se c'è qualcuno che gliela paga, insomma. Però finché non c'è qualcuno che la paga, la puoi avere tu. Grazie, capitano. Lui è comunque sempre ospite del capitano, cioè le cene, diciamo, la sera c'è sempre Cabe, quindi non è con voi durante le cene, a meno che non voglia scendere sotto coperta. Può scendere comunque sotto coperta dopo. Cena. Scendo a fare un giro, ma... Comunque avete tempo per fraternizzare con voi, con altri, delle piccole... Sì, no, poi li conosco anch'io e vado anch'io una volta a conoscere. Io cerco magari di avvicinarmi a quelli più disperati e approfittare di loro, fargli lavaggio del cervello per convincerli a seguire la mia cosa. E approfittare di loro è bruttissimo. Esattamente, è quello che va un prete, sostanzialmente, quindi... Mi interessa. Però un saluto a tutti i preti che ci stanno seguendo. Però le mie idee esistono. Però diciamo che durante il giorno tu magari quando li incontri, Cabe, loro ti presentano i due nuovi personaggi. Piacere. Chi questi c'è? Sono i due nuovi PG. O c'è un halfling e un umano con uno strano copricapo orsesco. Ma no, cosa l'ho. Si fa ancora vivo? Allora c'è uno strano copricapo orsesso che se ne va. No, non ce l'ho dopo. Senza una persona. È una roba quando fa freddo. Sono pelato con la barba. Comunque non è caldissimo. Andare dalla gente che vedo più in difficoltà e convincerla a superare le difficoltà pregando. Pregando? Adesca sì. Nuova gente. Da... Gangleri? Non sanno chi è Gangleri, però io lo faccio per me. No, no, no, io non prego. Cos'è? non molto, cioè alcuni apprezzano la tua ospitalità, ma non tanti apprezzano questo Gangleri che non sanno chi sia. Com'è che ti chiamavi, Shio? Che non mi ricordo più. Non ho mai detto il tuo nome, il mio nome davanti a te. No, il personaggio della campagna vecchia, Dio. Anedet. Non è la campagna vecchia, ragazzi, è la seconda sessione. No, Aceco. quello il ranger, il tuo personaggio. Anolian. Che tutte le volte dico Anolian e vorrei smettere di dirlo. Ah no, Anolian. Lui era l'inutile. L'inutile, so. Va bene. Cosa dici a... Perché Sirron? Sì, io mi presento... Non ho mai sentito parlare di te. L'altro ti venerava quasi come un dio. Questo piacere, Cabe Brengwine. Oh, piacere, salve. Cioè, sei sordo? No, capito. Ti chiami Cabe, come hai detto il cognome? Sì, è Brengwine. Brengwine, piacere, sono Sirron. È cieco, è sordo. Vabbè. Beh, il nostro amico ha detto che ha passato molto tempo nella Terra Selvaggia. Sì. Diciamo che ha vissuto sotto un sasso. Io canticchio una canzone famosa che ho composto io. Non lo so, carino, però dipende che cosa dice. Parli di Anolian, robe così? No. Ok. Non merita la mia attenzione uno che non sa chi sia. Beh, è carino il motivetto. No. Magari se me lo insegni, a me piace suonare il flauto. Tranquillo. Tranquillo, sordo cieco, neanche io mi metto tutto questo. Ma non sono muto, ho la faccia vostra. No, potresti diventarlo, attenzione. Non sa mai come gli dei colpiscono. Loro volere. Piacere. Non c'è brutto. No, signore. Cioè, tu non... Sì, vedi un suo vecchietto. Cioè, non capisci perché lui si è attirato. Ma come mai una persona della sua età che dovrebbe godere della pensione, dell'ozio e della libertà che la sua età le concede si intraprende un viaggio del genere? Io sono Kay Brengwine, l'eroe. Sì, l'eroe. Dai, contro gli anziani. Tiro dalla borsa uno dei miei libri e glielo sbatto in mano e gli faccio: tieni, leggi, sordo. Ok, mi dà un libro? Ti dà un libro. Bene. Vabbè. Non so leggere. Il libro è... È uno dei libri che ha scritto... Aspetta, se ti dico il titolo. Grazie. Devo studiare. Non è un regalo. No, vabbè, ma ci sta che sia tipo sulla guerra anche, non importa. Beh, magari durante il viaggio sulle si chiama si chiama il torneo di Alquarn. Si chiama così, no? Alquarn. Sì. La ringrazio. Beh, se me lo quando leggi il torneo di Alquarn, hai uno strano pruritino. Però poi passa. Ok. Ok, grazie. Se sono le pulci nel libro. Posso avere l'onore di averlo in prestito solo fino all'arrivo all'isola, poi glielo restituirò. Sì, è vero, tu sai leggere, Sceo, il che è molto raro. Beh, sì, non c'è problema, così forse la prossima volta mi saluti. Sai leggere, o cattano. Alzando i piedi. Questo l'ha detto adesso, però. No, beh, il catta saprà leggere, ma male. Beh, magari non in maniera forbita, un libro per bene, nonostante parli con parole forbite. Yarro. La ringrazio, posso leggerlo e poi restituirglielo? Allora, grazie mille. Gentile, fatti una cultura. Signor Gabe, non ricordo il nome. Leggi il punto in cui Anolian vince il torneo. È il punto più bello. Spoiler. Quando senti questo, però quando senti, in realtà ha vinto il terreno della scena. E quando sente, Vez mi ha scritto così. Quando senti Anolian, questa volta sì, senti un brivido proprio lungo tutta la, cioè un momento proprio di così. Beh, non importa che vieni, ti paresi, ti cade il libro dalle mani. Cioè, e poi te l'ho appena prestato, Dio porco. Lo vedete che mentre Cabe si sta bulleggiando, Sirron ha un momento di tipo paresi, tipo shock, e il libro gli cade dalle mani e poi dopo si riprende improvvisamente. Scusa, mi è scivolato. Questo è preso, è tra le quote sociali sto tipo. Ripeti che era saltato la TV un attimo. Ho detto è tra le quote sociali sto tipo, l'avete trovato lì? No, chiedo scusa, mi è scivolato, non si ripeterà, le chiedo scusa, lo raccolgo, gli do una pulitina. Va bene. Una delle cose che succede nel corso di queste settimane di viaggio prima di arrivare all'isola di Erric è che diciamo che quello che voi notate è che il capitano... Io leggo il libro in questi giorni. Leggi il libro. Lo leggi. E... più avanti. E... Gli aiuto alla navigazione. Allora, noti che il capitano è molto brusco, quindi non vuole avvalersi dei suoi servizi, sembrerebbe, in questo momento. E cioè, proprio molto brusco in generale. Non sembra così grato come aveva detto. Chiedo ad Albrecht. Albrecht è molto sbrigativo e ti dice, guarda, sei gentile... Lo farò presente al capitano, ma il capitano fa di testa sua, con questa rotta la conosciamo bene. Beh, se tu hai della roba da farmi fare, piuttosto che rimanere con le mani in mano. Sì, sì, sì, sì. Beh, comunque voi, diciamo, a tutti di voi comunque viene assegnato qualche compito, che sia magari... Tranne a Cabe. Ho sbagliato. Scusate, ditemi. No, Cabe no, però diciamo voi altri ogni tanto vi viene dato qualche compito di aiutare con i lavori pesanti, le... Capito, 90 anni ci mancherebbe, mi facessero lavorare. Cabe è lasciato tranquillo a comporre. Di una polena c'è sempre bisogno. Anzi, molti tu appena esci, cioè quando esci praticamente dalla cabina, tutte le volte che c'è gente che ti guarda, gente che ti chiede, dai, ci racconti qualcosa, ci narri qualcosa. Ovviamente io ogni volta racconto tutte le minchiate di Anolian e... Minchiate. Grandi gesta eroiche. Tutte le gesta eroiche che ho fatto in passato. Grandi gesta eroiche. Come le tre volte che è morto. È morto davvero mai nelle altre campagne? Come no? Morto due volte. Morto, no. Una volta sì. Lui mi sono ripreso. No, una volta sei morto. Allora, sì. Piano, nelle storie lui non è mai morto, quindi... Sì, ha avuto un momento in cui ha parlato con la forza superiore e è tornato indietro. Esattamente. Me lo ricordo bene, piani alti. È stato proprio così. Sotto coperta si respira diciamo uno spirito più cameratesco e puzza di merda assolutamente. La gente quando può si ubriaca e diciamo che le voci girano, quindi viene fuori, insomma, si sa che voi siete della gente tosta che ha fatto un po' di casino a Falna. Mi sono dimenticato di dire, ho una benda suona. Un altro cieco, ti mostrerò la luce. E c'è gente che vi sfida, dice, mentre ubriaca, chissà, magari voi che siete, sembrate tanto coraggiosi, chissà se avete il coraggio di pisciare nella vasca di Bess. Ah, giusto, stanzo. Il capitano, la particolarità di questa nave, che si chiama Otaria Danzante, è che praticamente c'è una sorta di mascotte della nave, che è una specie di... che è una foca, un'otaria, molto, molto nella vecchia. Vasca dell'otaria. E c'è praticamente sulla nave una sorta di vasca, di vaschetta, dove questa otaria sta durante il giorno lì, non fa un cazzo perché è molto vecchia, sta lì a qualche gioco, a caso, una palla. E quindi una delle cose che dicono è, vi sfidano, se siete... diciamo, tanto coraggiosi, andare a pisciare nella vasca di Bess durante la notte. Io non lo faccio. Qualcuno di voi raccoglie la sfida? Perché dovrei raccogliere questa sfida? Non so, sono sfide cameratesche da sotto coperta. Perché devi... No, glielo chiedo a chi mi ha... Che senso ha? Beh, un atto... Se non c'è un guadagno... Se non hai le palle, vabbè, ci sta, ci mancherebbe. e torna a bere questo qua. Ma non ha senso, perché disturbare l'animale? Ma è un cazzo di foca, dai. Cioè, vabbè, che è vecchio, ma il capitano cosa pensa di sta roba? Non hai mai visto questo animale qua? Il capitano è il primo che fa la pipì. Abbiamo mare tu. Ah, beh, giusto. Qualunque tipo di animale sia, lascialo stare. Parla quello ti che ha. È arrivato un amico di animali, ma quindi tu ascolta, ma se mettiamo se stessi morendo di fame, così, cioè se io ti porgessi uno spiedo con un bel coniglio succolento, tu toglieresti il coniglio e ti mangeresti lo spiedo, insomma. No, la gente ride. La necessità è un'altra cosa. È arrivato l'amico. Se ora un gabbiano passa e ti caga in magari testa. Potresti fare magari potresti fare un bagnetto con Bess. Potresti immergerti con lui, fare un sai, danzotare danzante. Sarà perché ballerà. E però ti personaggio di scemo a cattivo. Ma no, è stupido pisciare in testa l'animale. C'è un uccello. No, perché in testa? Semplicemente tu pisci fino a quando praticamente la vasca è gialla, diventa liscio. Come scusa, come volete, torno con i cacchi miei. Va bene, senza farlo. Ci sono varie cose. Uno degli ultimi giorni prima di attraccare, il capitano raccoglie tutta la gente sul ponte. È molto, sembra molto incazzato. Chi ha pisciato nella vasca? Chi ha pisciato nella vasca di me? E tutti ovviamente indicano me. È ovvio. Adesso voglio sapere chi cazzo pensa di essere così simpatico da andare a pisciare nella vasca di quel povero animale. Veramente? Sì. Veramente? Sì. Spettacolo. Siete tutti radunati lì, tutti i coloni. A un certo punto e venga il suo tipo dell'equipaggio e fa: capitano abbiamo trovato questa, e c'è cioè, tipo la palla che usa Bess. Cioè intanto Lotaria tipo si è messa in un angolo tipo tutta traumatizzata e sembra anche che sia stata tipo colpita perché c'ha delle ferite e praticamente dice, arrivano: capitano abbiamo trovato questa palla tra le amache dei coloni. Fa: di chi? Indicatemeli subito. E si vede tipo questi che indicano voi. Ho la mia cabina. Il capitano vi guarda e dice: beh, evidentemente qualcuno pensa di essere così simpatico. Va bene. Mi dicevano che alcuni di voi andavano in giro cercando dei lavori. Bene, ne avete trovato uno. Pulirete il ponte ogni giorno. Se mi è concesso, capitano. Ti è concesso di pulire il ponte. E se ne va. Io obbedisco. Pulite il ponte. Io mi rifiuto. Poi però... Ti rifiuti? Sì. E dico che non sono stato io. Non c'è motivo per pagare pena di quello che non ho fatto. A chi lo dici? Al capitano. Lì mentre dice questa cosa. Chi non pulisce bene, questa è la mia nave. Chi non fa quello che dico io può scendere dalla nave. Ma adesso. Ma non sarebbe meglio punire chi di dovere piuttosto che... Lo sto facendo e tu mi stai disturbando talmente tanto che potrei quasi decidere... Non siamo stati noi, capitano. Io... Non mi interessa. Io prendo da parte... Poi sarà trovata nelle vostre cose. Io prendo da parte. Quindi stai dicendo che quelli dell'equipaggio stanno mentendo? Sto dicendo che qualcuno di quelli delle camerate sotto si è nascosto. Qualcuno che qualche giorno fa aveva proposto di fare questo stupido... Scherzo, io intanto prendo. Ma io non vengo. Anche nessuno di noi prova a farlo. Sì. Beh, io intanto prendo tipo lui così e ti dico: calma. Io vediamo e poi. Puoi fare un persuade. Io intanto gli dico: e perché me non l'hai fatto fare? Obbediamo e poi possiamo. Quanto hai fatto? 12. Il capitano dice: ritenetevi fortunati se vi faccio solo pulire il ponte. E con questo ho chiuso la questione. Io prendo lui, cioè mi avvicino a lui e gli sussurro: obbediamo, poi magari stanotte ci vendichiamo. Poi non so se lui reagisce. Lo so, è lui. Quanto valore? mi provo a liberare, mi sposto. Ma non è che ti ho preso mi sposto nel senso, no, se no, vuoi stanotte ci vendichiamo. Oh, cazzo tocchi, stronzo. Va bene, mi rispondi almeno? No. Perché mi sono sempre ignorato? Perché ci conosciamo allora, da 5 giorni. Dopo ci allontaniamo un po' e lui con cui ho magari più confidenza, nel senso, almeno mi ascolta. Sì, questo. E disparte da tutti anche ore dopo. Magari, cioè tu che cazzo ne sai, magari uno di loro l'ha fatto, cioè chi l'hanno trovato tra da di voi, ci hanno trovato tutti voi, ma magari. Io dico agli altri, mi sta sulle palle sta cosa, potremmo fare uno scherzo a quei tizi per fargliela pagare. Uno scherzo. Sì, uno scherzo. Sì, hai proprio ragione, uno scherzo. Vabbè, ho capito, non hanno mica ucciso no, qualcuno. No, infatti, faremo alcuni dei tizi che vi avevamo proposto. Non attende che dice così, faremo alcuni dei tizi che vi avevamo proposto hanno anche alcuni delle no, pipaggi, io non sono hanno anche alcuni dei fagioli che ridevano. Vabbè, evitando gente. Ci sta parlando che... col tipo il paladino della vendetta di fianco. Quelli delle pipaggi che hanno indicato no, noi si sono girati ridendo? No, però tipo tra quelli che quando si facevano le gang c'erano alcuni dell'equipaggio che erano lì e ritacchiavano anche loro. Ho capito, okay. Quelli che non sono dell'equipaggio staranno in una stanza tutti insieme a dormire. Il sotto è tutti insieme, solo semplicemente sono vari settori, questo è semplicemente vicino. Pulisco sto cazzo di fondo, anche io lo pulisco, però dico questi 3 o 4 o 5 quanti siano che hanno rotto il cazzo a noi, tolti quelli dell'equipaggio. Il cazzo si rideva, cioè erano quelli? Un po', sì, anche una decina, anche una ventina. Ah, sono troppi. No, boh, cioè, come vuoi, cioè, nel senso, se vuoi punire, cioè, dipende. No, ma niente, non lo so, era improvvisare qualcosa per cagargli il cazzo. Sì, quello lo puoi fare, però sì, sono tanti, ecco, sicuramente. Cioè, puoi sceglierne qualcuno, ecco. Ci sono anche dei cani. Cosa? Ci sono anche dei cani. No, non lo so. Eravate in un gran gruppo. Era una controgag del genere. Cioè, pisciare di nuovo è la cosa. No, non la stessa cosa, qualcos'altro. Qualcos'altro, tanto a punire il ponte, non è che ci hanno fatto fare chissà cosa. No, allora dai, arriviamo a sera, c'è il solito casino lì. Quindi vengo ignorato per la mente. Sì, c'è anche chi vi dice, vabbè ragazzi, diciamo che sta gag della pisciata, alla fine c'è cioè, ogni viaggio c'è sempre una volta. Il capitano si incazza di brutto, però... La sera c'è il solito sì, solita roba sto coperto. Ok, vado dal tizio che mi ha proposto. Ce n'erano vari. Io posso quello che aveva detto lui. Questo sì, era uno, ma era come se fossero varie voci. Quello che aveva iniziato. Ce n'erano vari, sì. È a cena, questo uno dei vari. È a cena? Sì, cioè, se tutti posso defilarmi e andare nelle camere. Non ci sono camere. Cioè, nei loro scompartimenti, insomma. Sono tutte amache lì, puoi andare nelle varie amache. Vado giù. Siete tutti nel stesso punto, siete tutti giù. Ah, adesso siamo giù, non siamo a cena allora. La cena è giù, sotto coperto. Ah, ok. Cioè, sì, puoi infrattarti se vuoi. Ok. Ma mentre vado, non faccio segno a lui. No, volevo guardare in giro se trovo qualcosa nella loro zona. Beh. Non siamo stati c'è allora c'è la parte dell'equipaggio e poi c'è la parte vostra, sono le robe che infatti hanno io tutti, però in generale c'è tutti un po' di però la giustizia non è stata fatta, un torto c'è stato fatto. Una quindi raga, chi di voi ha pisciato nella vasca? Gli indizi che ci conducano al colpevole li cercheremo. Esatto, io volevo cercare una roba del genere. E chiunque però mi ha detto non collaborerà. Quindi, Gentaglia, chi di voi ha pisciato nella vasca? Magari è stato lui. Ma arrivi giù. Sì. Nessuno di noi quattro. Guardo loro due perché li conosco meno. Ma io mi domando, quali prove ha trovato il capitano tra di voi? Cioè, nei vostri cosi? I giocattoli a parte la palla dell'Otario. Indici... Dei suoi amici che ci indicavano, quelle erano le sue prove. Hanno trovato la palla di Tess. Che tra l'altro l'avrà trovata in uno dei nostri giacimenti. Sì, vabbè, lì nella nostra zona. Ma semplicemente possono avergli detto di averla trovata lì. Quindi. Non abbiamo molti elementi. Non lo so, tu hai un sacco di erbe, non hai qualcosa di lassativo da cagargli il cazzo nelle zuppe. Certo, dobbiamo cagare tutto l'equipaggio. Nella vasca da buttare. No, ma solo, come dicevi tu, battezzarne 4-5 per rompere i coglioni a quelli, sì, capito? Sì. Sì, così genere. Magari si fanno fare il loro potete lavoro. Fare assolutamente se no pisciare ognuno in una ciotola, metterla sotto la maca mentre dorme e fare cadere mentre voi bramate. Ma sapete chi è stato? No, vabbè, abbiamo ipotizziamo quelli che ci hanno sfidato a pisciare là dentro, che alla fine siccome noi ci siamo tirati indietro l'abbiamo fatto e dato la colpa a noi. Noi ce la riprendiamo con loro, buono. Ma sì, ma che è così, niente di che. Potreste adesso voi salire su in coperta. Io faccio quello che devo fare. Poi vediamo. Però beh, io non ho frequentato molti chierici e simili. Non è così che si professa la fede solitamente, che io sappia. No, Giulio, basta. Dipende dalla tua fede. Sai male. Insomma, hai ragione. Aprimi gli occhi che non so la verità. certo. Vabbè, se volete, se avete qualche idea, io per carità, adesso non si trova nulla. Ci sono le divinità del mondo civilizzato. Buone. Che ok. Perdone. Hai ragione tu. Il tuo dio è il migliore di tutti. Sotto, però, seriamente, se volete. Lo sai che alla fine Odino prende le legnate, vero? Vestiti bagnati. Cosa? Lo sai che alla fine Odino prende le legnate, vero? Cioè, indizi con una bel genere. Okay. Pensi che sia impossibile trovare. Puoi rubare averi di gente. Ma è figo il personaggio. Chi sì, però no, non potremmo fare? Dell'Otaire che magari ha avuto occasione. Lo ma so, un po' chi, tutti a turno. Cioè, questa cosa è successa di mattina. Quindi, probabilmente di notte qualcuno è uscito e ha fatto sta roba. Mettergli qualcosa sulle e poi nell'ispezione qualcuno aveva. O non ve ne siete accorti che vi ha messo la palla. Forse un po' o magari che cazzo so. Magari semplicemente ti hanno detto che fare voi la cosa portata, che non aspettava fare a noi, ma a loro. Tipo, cioè, voi non mi state molto nulla. Semplicemente si prende sapete un po' qual è il gruppo, c'erano tanti, sapete chi sono i marinai che hanno portato la palla. Quello sì, sapete. Allora sono 20 e noi 4. No, cioè, nel senso che eravate un gruppo lì, cioè dentro come colonne. No, perché ho proposto a lui, facciamogli uno scherzo, lui mi risponde. Vai lì con un guanto e lo sfidi a due. Sì, quelli che magari erano più cazzerecci, erano magari 10, 12. Se ricevuto un'offesa da una persona, lo sfidi a singolare attenzione. Ma il codice dei pirati proibisce c'è scritto, ho internet anche qua, no! Proibisce le sfide sulla nave. Con te che ho capito che sei quello più abituato a fare qualcosa. Essere, esatto, non sono proposte messi due le dispute devono essere terminate a terra. Senza fare male spada nessuno, o la pistola. Ovviamente. La pistola non è inventata. Il male fisico. La palestra. Sì. Non c'è bisogno di fargli del male. Loro non ci hanno fatto del male. Perché okay, dovremmo fargli allora del male? Possiamo. Va bene, volete fare qualche erbetta? Che causi un po' morto. Un mal di mare? No, che gli faccia venire... Morto, sì. No. No, che perché posso diventare ciechi e sordi? Ok, te? Sì, ci sta bene. No, serio, se possiamo fargli qualcosa. Sì, tenete presente, cioè, come sapete il capitano è R sulla propria nave, quindi se tipo uccidete qualcuno dell'equipaggio... No, ma infatti io sto parlando tutt'altro, no, cioè, no, io parlo di scherzi. Potrebbe tranquillamente mettervi a... No, probabilmente io... se scopre che siete stati voi o assolutore, potrebbe... Certo. Ma io questo sto dicendo, sapete, parlo di scherzi, cioè, tutto sommato ci ha fatto pulire il ponte, non è che ci ha fatto fare... Beh, dobbiamo pulirlo fino alla fine del viaggio. Capito? Però possiamo fare uno scherzo, non è possibile. Senti, sono un vecchio. Ho esperienza. Io rispetto gli anziani. No, nella serie che per un però... vecchio pulire tutti i giorni un ponte... Vabbè, farò anche la tua parte se vuoi, non è quello il problema. Però intanto potremmo divertirci okay, con uno scherzo. Vabbè, se... Se volete intanto pensare per un'altra sera, intanto vi faccio arrivare all'isola. Ah, sei già all'isola? Sì, andrei avanti, così dà un senso al titolo della, vai, della cosa. Però se volete fare, se avete già in mente uno scherzo, no, vai, roba del genere, tanto il viaggio è lungo. Ci pensiamo perché è lucido. Arrivate finalmente all'isola di Eric dopo una settimana di viaggio. Una settimana... No, ma è successo tipo dopo un paio di giorni. Ma che si chiama questa isola? Tu ti chiami Eric, come me. Te. Tu ti, però ti chiamerai Eric, ma no. No. Eric. La due R? No. E la Y? No. E la K? No. Ok. ICH. Beh, no, però... beh, Eric, comunque puoi chiamarti anche così, perché è un nome saradoviense, se vuoi. E... ah, quindi... Era il nome di un quest'isola è interessante. È mia quest'isola. Esatto, tutti li guardano molto no, di più. No, la ICH. Lui è lì, è Harry. Si fa presto a cambiare. Comunque sì, ci sta che si possa chiamare come l'isola. Harry. Va bene, l'isola di Eric. Lucana. Praticamente Non è così. Vabbè. Buono. Federici è una delle peggiori, secondo me. Sì, Ron. Ma forse non lo devo dire. Allora. Arrivate a Erikvel, che è il porto dell'isola di Erik. Praticamente quello che notate di questo porto non è un porto a... Voi siete partiti da Falnafas, che è un porto gigantesco, questo è un porto molto più modesto. Però ci sono... sembra esserci molte più navi, o comunque piccole imbarcazioni, per lo più piccole imbarcazioni, di quante case, vedete. E all'ingresso del porto vedete una gigantesca ancora, proprio tipo statua, però gigantesca. Mi fate un tiro di storia, intelligenza. Sì, tutti direi. 4. 6. 7. Una banda di ignoranti. Bumble di cazzo. Di storia. Storia o intelligenza comunque. 8. Beh, il tiro più alto, bravo. Ok, dicevamo. Va bene. Oggi non tiro sempre niente. Va bene. Vabbè, io non ero attraccato. Vabbè, sapete cosa manco. Notate molti. È una cosa di ferro. Notate vari vessilli che portano il simbolo dell'ancora. Sono vessilli gialli. Ma cos'è, tipo una sorta di scalo, semplicemente per. Sì, sì, vi fermerete qua. No, non per giornata. Noi, dico come paese. È un'isola. Quasi esclusivo. No, poverini, è un'isola a tutti gli effetti. Ok, di storia non sapete praticamente un cazzo, quindi non vi dico molto. Ma è un'isola del nord, è ancora sotto la Saradovia, questo lo sapete. Non ci piacciono i musei. E... potete chiedere qualche informazione, però non sapete. Una chiesa! E si butta in mare. Vedete delle case, così si scende il capitano e vi informa che avete una giornata che potete utilizzare come vi pare. Potete benissimo tornare a dormire in nave, ma potete anche. Io il libro ho finito di leggerlo, glielo ridò come promesso. Possiamo vendicarci prima di scendere. Esatto. Sulla nave, tu hai ogni tanto qualche blackout. Hai avuto durante sì, non ricordi bene che cosa è successo sulla nave, hai grossi rimane, però non ti sembra successo nulla. Ma perché devo fare sempre come saresti il ricordo, è una malattia degenerativa quella di scelta, depresso dentro di te che non capisci però perché alla terza sosta è schizofrenico. Sulla nave rimangono in molti o scendono quasi tutti? Scendono tutti. Cioè, ci saranno i turni a qualcuno che stia sulla nave, però si scende tutti. Poi dopo la sera, se qualcuno vuole tornare, anche perché comunque una settimana non è tantissimo, però una settimana che siete in viaggio c'è gente che vuole... Puoi scopare! Che vuole, insomma, andare in giro per taverne. Però la notte di solito, cioè, la fai rimanere lì in taverna oppure in nave? Chi vuole tornare in nave a dormire può farlo, chi vuole prendersi un letto... vi dà l'appuntamento per quando ci si trova per ripartire. Ok, a posto. Io tendenzialmente seguo... diciamo magari un gruppetto tra cui ci sono quelli che abbiamo individuato per parte della gente o non se l'è legata al dito, c'è stato un incidente. Non legato al dito, secondo me non gli ha dato fastidio, tiro fuori il dito con un lasso. La maggior parte della gente, anche alcuni diciamo di quelli che comunque avete conosciuto sulla nave, con cui magari avete anche un buon rapporto, tranne Giulio, che ovviamente odia qualunque essere vivente. Non è vero, ho cercato di convertirli, sono stati molto... Quelli che ti dicono, magari qui tuo dio trova... Presto muori, dai. Vai, vedi che... Eccolo! E vanno, dai ragazzi, noi si va tutti alla... Non sono un cristiano. Alla taverna dell'ancora vestita, venite anche voi. Dell'ancora vestita? Esattamente. C'è questa taverna che praticamente ha come insegna un'ancora su cui è infilata, esatto, tipo una sorta di vestito da donna. E poi su tutto è molto grande quest'ancora. Cioè, non ce n'è uno normale in questa sessione. Non ce n'è uno normale in questa sessione. Non c'è nulla di... Non ce n'è uno normale in questa sessione. Quelli che pisciano nella vasca d'otaria, quello che è sordo, cieco, muto e pazzo, e questi che vestono le ancore. Si chiama l'ancora vestita perché è un'ancora, è un praticamente bordo. Dove c'è questo vestito sopra, e poi praticamente è piena di sia un bordello, però c'è la sorpresa dopo. Sembra per ora non l'avete visto, ancora entrati, vi sto descrivendo. Donne ci sono, sul serio, in paese. Dammi finire, scusami, ti dico tutto quello che vuoi. Ci sono infilati un sacco di calzini, cappelli, guanti, eccetera. Vi dicono che praticamente infilare qualche forma di indumento nell'ancora porta buona fortuna, è considerato un buon auspicio per il viaggio in mare. Nella taverna è pieno di avventori, per lo più voi in realtà, perché siete la nave più grossa che è arrivata ultimamente, però ci sono un sacco, c'è gente del luogo, altri viaggiatori, sicuramente anche delle donne che, insomma, di professione magari... No, no, ma dico in generale... Non si occupano necessariamente di servire ai tavoli, no, magari dico in generale, dico. Non sono solo uomini, perché sulle barche sì, sulle navi... Sulle navi sì, ma qui, cioè sulla nostra nave... Ma magari qualche donna... Colonna, ci sarà, esatto. No, ci sarà magari qualche donna. Sì, se devi colonizzare... Però è tendenzialmente, ecco, sono in una zona separata da voi. Ok. Quindi non sono stato loro a fare la pipì nella vasca. Magari sì. E comunque guardate, diciamo che sì, ci sono delle donne e probabilmente il motivo per cui si fanno anche tante tappe è proprio il fatto di non rischiare che ci siano 20 giorni che poi cominciano gli stupri a caso. Quindi poi in questa taverna potete trovare un po' di tutto. Vabbè, io a che ora è? Cibo. Quando arrivate? Tu arrivate in tarda mattinata. Beh, allora direi che un buon pranzo ci sta. Quindi viene servito un pranzo, se volete potete pranzare e bere, non mi ricordo l'altra volta quanto vi ho fatto spendere, ma mi pare tipo una moneta d'argento a testa, e direi che qua potete pagare sì, una moneta d'argento a testa anche qua quando si a mangiare e bere. Siamo ci sei anche tu con noi? Ah, paghi quello anche per noi. Sì. Oh! Alla memoria del vostro, tra l'altro, il tesoro che avete trovato là dovreste dividerlo anche, cioè togliere la parte di Arcis in realtà. Quella la togliete, se la prendete. Adesso teniamo tutto in comune. Adesso ci spiego ingannarti. No, in comune è un cazzo, hai due nuovi. Ci separeremo. Catta in comune un cazzo, hai due nuovi, non gli dai una sega. No. Hai due nuovi, ecco, non gli dai una sega di niente. Ecco il gattino. Ecco quello che avete notato nel viaggio è che Arci è sempre stato sempre più distante da voi, cioè come se non volesse avere nulla a che fare. Sei stato tu a pisciare in no? Sì, tant'è che non è stato sì, neanche ha detto sì. Non è stato neanche punito lui, perché ormai è tipo lontano, cioè lui gira da solo, per lo più è sopra che soffre, esatto, soffre moltissimo il mal di mare, proprio lo vedete spesso che va, no, in continuazione. Cioè, era stato magari un po' bene per le erbe di Giulio, ma poi è tornato a vomitare. Cioè, lui soffre tantissimo il mare e non è con voi in questo momento nella taverna. Non ci offrite neanche, che bestia. Cos'è che ti offriamo, scusa? Ha detto lui, si era proposto Giulio. Quindi sì, arriviamo nell'isola di Erric, con la Y e la K. Il corpo è Ericvel. Allora, ci servono da mangiare? Cosa vi servono da mangiare? La preda non la voglio perché porta male. Un bel pasticcio di foca. Comunque qui metti l'oro. E il capitano nota subito chi lo mangia il pasticcio di foca. Vabbè, è un notario. Non è semplicemente un bel pasticcio di foca. Uno spiedino, un po' di spiedini di tra l'oro e il platino. E del no, è tra l'argento e l'oro. Ce ne sarebbe un altro, ma non. L'electrum vale mezzo oro. Sì, però non lo usiamo. Sì, l'electrum non ve la farò mai. Neanche il platino, se possibile. Beh. Questa ne possiamo fare. Beh, platino 10 monete d'oro. Va bene. Siete a una tavolata con degli altri marinai, con degli altri coloni, con degli altri anche avventori del luogo. C'è chi fa notare che quello seduto lì, quello che al momento non è nell'inquadratura del nostro computer, è effettivamente Cabe, il grande Cabe Bregwine. Non c'è nessuno. E c'è il suo strumento. C'è chi si esalta molto a questo. Cioè, dicono, cavolo, Cabe, cantaci una storia, raccontaci una storia, oppure partecipa alla sessione. Sei proprio tu. Partecipa. Cabe, Bertwine. Va bene, proprio. Attenderemo la cosa di Cabe. C'è chi si fa i selfie con lui. Esatto, una sì. Storia, sì, va bene. Cabe è... Una storia, sì, la posso raccontare. Mentre... C'è i marinai, che alcuni marinai che però sono un po' più bruschi, dicono, ah sì, un grande eroe, grande, sì, grande che un grandissimo eroe. Certo, facile fare tutto sulla terraferma, insomma, ma qua in mare sono altre cose, comunque, sarà un altro mondo. Guarda che lui ha ucciso due draghi, tutto. Vabbè, allora, intanto ignoro il tipo, tipo i giovani d'oggi, vabbè. E poi racconto un paio di storielle. Storielle. Che cazzo! Quanto hai fatto? Fumble? 8? Storielle. Magari avrei fatto Fumble. Non sei... Alcuni apprezzano molto comunque le tue storie, però effettivamente non sei al tuo meglio oggi. E quindi altri dicono, sì, belle storielle, certo. Ma... Visto che a quanto pare tu e i tuoi amici siete dei grandi eroi, magari, ecco, forse siete le persone giuste per risolvere, forse per trovare una soluzione alla leggenda del promontorio. La leggenda del promontorio? Sì. Il vero di... Boh, no. Cos'è la leggenda? Non si può sapere. Sì, cioè, ok, vai. No, tu puoi tirare, solo tu puoi tirare. Ah. Ma sono un bardo. Ah. Ah no, comunque tu catta, anche se hai tirato di merda prima, sai che comunque i flyer ti sono la casata di questo posto. Ah, sono la casata di questo posto. Ma sono di questa bardo, leggenda lo saprò io la leggenda. No, questa non la sai perché è un'isoletta del cazzo, non spiegavi neanche chi isola fosse prima. Ma sono un bardo. Sting, non la lo sai. Lo faccio di mestiere, vabbè. Vai, fammi un tiro, ma molto alto. Di cosa? Di sei un bardo. Di cosa, appunto, di intelligenza. Che cazzo è intelligenza? 11. No, non hai sentito parlare di questa leggenda, sfortunatamente. Ma sta, ma non ci sta, è un'isoletta del cazzo, chi se ne frega. E quanto pare, insomma, loro vi raccontano che da quel che si dice al tramonto, o alcuni sostengono all'alba, sul promontorio che voi avete visto dalla città, dal cittadino, avete visto la cittadina e sopra, da un lato un castello e dall'altro questo promontorio che si staglia contro il mare. Dicono che su questo promontorio, a quanto pare, all'alba e al tramonto lì, alcuni dicono una e altri dicono un'altra, altri dicono tutte e due, appare questa fanciulla misteriosa, che sembra essere una sorta di spirito che vaga nel promontorio. Poi prete, un'anima perduta. E... Non lo dico nel gioco. Ovviamente. E che male fa? L'hai detto nel gioco? Se no? Da quello che dicono loro, la fanciulla è lì da ormai molti affari, ormai da molti secoli, ed è in pena. E sta cercando un modo di lasciare questo mondo, ma non ci riesce. Ci sono tante dicerie sulla cosa, alcuni dicono che sia stato vittima, cioè comunque probabilmente di un attacco di pirati, ma probabilmente ha subito qualche violenza, altri dicono che addirittura è stata gettata dal promontorio, e altri invece sostengono che semplicemente si sia gettata lei per non farsi mettere, non andare in sposa a un vecchio violento. E ci sono tante storie, cioè lì proprio tra di loro dicono no, era così, no, era cos'ha, diciamo quello più capetto di tutti dice, cioè, vabbè, vale come sia, forse ha bisogno degli eroi come voi per risolvere ma questa cosa. Qualcuno di voi c'è stato? L'ha vista? Beh, diciamo che sul promontorio non è che ci si vada così spesso perché cosa c'è da fare, ma ogni tanto la si vede dal cosa, credo che tutti l'abbiamo vista. Qualcuno di voi è andato lassù? No, beh, noi siamo marinai, non certo eroi come voi. Dico bene, Cabe! Cabe, prego! che fottuto Bregwine. Beh, comunque sì, forse degli eroi della vostra pasta. Ma lo sa tua mamma che è quella lingua lì? Vicious Mockery. Quella lingua lì? Sì, lo sa tua mamma che hai quella lingua lì? Ah, mia madre! No, devi fare un tiro di salvezza. Ah, è un gli stai facendo un tipo Giulio. Un tipo Giulio. Cosa devo fare? Tiro salvezza su Wisdom, difficoltà 13. Lo passa. Allora niente, è solo un insulto. Mia madre! Ah, che Dio l'abbia in gloria. Se la sono fatta più o meno tutti in quest'isola, ma poco male. Vabbè. Ha detto bene, caro amico dei crostacei. Un po' che mi segno il numero. Ah, che è morta, a meno che tu non abbia. La morte non è una cosa definitiva. Già. La morte. In questa campagna pare di sì. Va bene. Beh, magari potremmo dare un'occhiata. Sì, perché no? Dai, date, cioè, mi sembrate proprio. Ma questo qua è uno di quelli che. No, questo è un locale, è un gruppo di cosi locali. Gli altri ascoltano, cioè, c'è alcuni di quelli, diciamo, che vi bulleggiavano un po', che ridacchiano, tipo, sì, quelli gli eroi dell'Otaria. Ecco, questo qua è il grande eroe. Pranzo, hai detto, no? Sì. Ok. Bene. Tu, quando mi consigli, a che ora ci consigli di andare, più o meno? Beh, come dicevamo... Al tramonto? Prima che al tramonto abbiamo un giorno. Perché vai tutta la notte lì, vuoi che ti risponda? Se lui l'ha già vista magari altre volte. Non so, vediamo, è più vicino all'alba o al tramonto? Tu quando l'hai vista? Ehi! Dipende in che direzione navigi. Parla un altro, ma secondo te viene prima l'alba o il tramonto? Non lo so, dipende da quanto bevi. Tu quando l'hai vista, ti ho chiesto. Secondo me è drastico. Si dice sempre, è sempre al tramonto. La verità è che si vede spesso al tramonto. Arriva un altro. No, lo giuro che è all'alba. Io sempre all'alba l'ho vista. Fa sì, certo, vabbè. L'alba, tramonto. Che differenza. Decidiamo di andare, no? Immagino di... Beh, perché un giro si può fare. Io per il pomeriggio mi stacco però, prima di andare là, e tornare sulla nave. Cercando di non farmi vedere mentre salgo e scendo negli alloggi. Chiaramente mentre... proprio dal lato vuoi andarci? Sì. Provo. Ovviamente non mi fanno niente se mi scoprono perché sono un passeggero, però cerco di non farmi vedere. Vuoi immergerti in acqua? Andare cerco dietro. Di passare da... Perché dal pontile ti vedo. Cioè, non c'è tipo scarico merci, qualcosa, ma... Diciamo che lì c'è qualcuno dal pontile che controlla. Se tu però vuoi andare in acqua, andare dietro e provare a risalire... Ah dai, provo così, sì. È una prova di scalare, credo. Atletica. Mm-hmm. Bene, meno uno. Okay. Va bene. Come meno uno, è la forza. Beh, può usare la prova. Puoi usare anche... Non lo so in questo caso. Dipende come me lo descrive, in realtà. Però partendo dall'acqua... Intanto vai pure avanti, guardo se ho qualcosa per scalata, qualcosa così nel bag. O le corde devo sicuro. Più che altro. No, vabbè, non è il problema delle corde perché ci sono. Mi volete fare qualcos'altro durante la giornata? Stanno ubriacando i tizi? Sì, moderatamente sì. Sì. Puoi approfittare anche di questo? Si beve, c'è chi va a troie. Il pack. Classiche cose, la taverna. La donne concedono servizi. Le varie persone che abbiamo, diciamo, individuato come chi aveva lanciato la sfida alla pisciata. E bevono come gli altri. Sì. Cioè, mi avvicino. Vabbè, magari sarà un po'. E lo uccido. Lo spacco. Ehi, amico, come che t'abbia muovi. Ciao, bene, tu? Bene, vorrei offrirti da bere. Grazie, ma cosa devo questo piacere? Ti ricordi quella sera, la scommessa di pisciare nella vasca dell'Otaria? Ah, oddio, amico, guarda, onestamente io l'ho visto a metà delle sere, sono bresco, cioè... ubriaco. Vabbè, puoi dargli i soldi, no? Questo viaggio. Ma sì, non pensavo, cioè, devo dire che alla fine avete avuto il coraggio di farlo. Ma vabbè. Il problema è che... è stato divertente, però. No. No. No, beh, vabbè, perché vi fanno pulire il ponte, poco male, dai. Secondo me vale molto di più la soddisfazione. Quindi mi vuoi dire che tu non è... So quello che ho visto, cioè il capitano vi ha punito per farlo. Vez, non capisco che gusto c'è a pisciare in questi monumenti. Faccio l'insane. Magari un albero poteva essere. Forse l'albero maestro sarebbe stato più indicato. Faccio l'insane. Questo è un inside joke. Cosa che non diremo perché in pubblico non si può dire. Un inside 20. 20. Va a finire che è stato ti sembra onesto in realtà, cioè lui probabilmente cioè un po' deride, un po' ti teme al tempo stesso, visto così che le stai facendo, però cioè non ti sembra che ti stia veramente nascondendo qualcosa. Vabbè, beviti una tua ultima cosa, qualunque cosa, e gli do la moneta d'argento. Grazie amico, comunque per quello che vale l'aver pisciato nella vasca ti fa il mio eroe personale. Sì, grazie. Beh, la soddisfazione. Bene. Andiamo al promontorio, hai altre cose da fare? No, allora, l'ho pensato in un altro modo. Vado senza fare manovra per salire. Comunque se tu vai lì e gli dici voglio salire... No, infatti... Comunque io in generale, senza stare a offrire di nuovo da bere, cerco di capire se qualcuno sa qualcosa. Va bene, fammi un investigation. Non ce l'ho, però vabbè. Cos'è intelligenza? Intelligenza. Schifo. 20 di dado! Utilissimo! Si inciampa sul tizio che ha pisciato. Tu dire per me. Sì, no, allora, certo. Secondo te, diciamo che chi forse potrebbe avervi fregato sono... diciamo che non sei sicuro di alcuni membri dell'equipaggio, però chi forse ha fatto la cosa è stato, ma idea, un gruppettino potrebbe averlo fatto dell'equipaggio, quindi. No, però l'equipaggio, ci sono alcuni dell'equipaggio che sono molto in combutta con loro, quindi potrebbero aver fatto una cosa in combutta o fare una roba insieme. C'è un gruppetto che è stato molto molto molto, diciamo, amicizia tra di loro, tra coloni e diciamo poi potrebbero, è ciurma, e non è semplice discernere chi, però diciamo che loro probabilmente ci sono dietro. Ok, mi segno per dopo. Io arrivato là volevo il guardare il librino nero rimasti, sia a fare magari scarico di chi c'è a bordo, di quelli che avevo inquadrato come personale che era già più di una volta che faceva il viaggio, se c'è qualcuno a bordo di isolato, insomma. Ma in realtà, allora, in questo momento a bordo non c'è nessuno, semplicemente all'ingresso della nave ci sono 4-5, diciamo, tra virgolette, messi lì dal capitano. Che sono quelli soliti, insomma, dell'equipaggio, no? Dell'equipaggio, cioè, se uno ha bisogno. E da quello che ho visto dell'equipaggio, sono quelli... che potrebbero appunto essere in comunità. Può essere che sopra ci sia tipo qualche colonno, magari. No, a me serviva qualcuno dell'equipaggio. O persone esterne che però non l'ho mai visto. Legati. E questi qui nello specifico che ci sono adesso, no, non erano tra quelli che ridacchiavano in realtà. Ok, allora a loro vorrei provare a fare una... dimmi tu quello che posso fare, cioè, una cosa di deception o di eventuale corruzione, per cercare di estrarre informazioni su chi dell'equipaggio fa questi scherzi. Si chiama investigation. Solo investigation, non intimidazione? Dipende come lo vuoi fare. Esatto. Però se vuoi, diciamo, cercare informazioni è investigation. Se invece gli vuoi andare lì, prendere tipo uno con gli altri che ti guardano e dire ora mi dici subito, allora è quello intimidation. Beh, non in maniera violenta, però vorrei fare come intimidazione. Beh, se lo corrompe può fare anche persuasione. Puoi fare persuasion per fare, sì, per se vuoi corrompere con qualcosa, quello sì. Se no, sì, andrei così, ma farei in questo modo. Probabilmente un tiro più alto, vediamo come viene. Dai. Cioè tu ti presenti e dici, ma se ti do qualcosa mi dici chi potrebbe avere a che fare con la roba? Sì, ho fatto basso comunque, viene 10 totale. 10 totale. Però ti guardano e dicono, guarda, è una roba che alla fine, cioè, succede sempre ogni viaggio. Cioè, non saprei dirti, alcuni dell'equipaggio, diciamo che magari non è che lo fanno, probabilmente non lo fanno loro, può essere che magari esce fuori come scherzo e lo lasciano fare alla fine, perché, sai, mi riesco a far dire chi sono? Guarda, sono tanti che lo fanno, ti dicono un paio, ti dicono, boh, cioè lascia stare, no? Ti dicono, guarda, lascia stare, secondo me vai solo a cercarti rogne, non ti preoccupare, cioè, tanto se voi, diciamo, state tranquilli, non fate casino, il capitano si scorda comunque di voi e non ce l'avrà più con voi. Se rigate dritto, secondo me... Non è una buona ragione per star fermi e subire. Beh, alla fine, voglio dire, qualcosa importante per voi è arrivare là. Cioè, dovete capire che per il capitano voi in questo momento siete dei numeri. Quindi, se non gli date rogne, per lui non c'è problema. Se gli date rogne, deve prendere delle decisioni. Però... Che tipo di colore? Dice, io non so se siete stati voi o meno, ma beh, cioè, chi se ne frega. Diciamo che è uno scherzo che alla fine, non tutti i viaggi, però spesso in alcuni viaggi esce fuori, ecco, diciamo. Però sì, forse in te non starei allora, troppo... Per adesso è andata male, quindi lascio perdere. Se loro dicono così. Dicono, non importa che ci vabbè, dai. Vabbè, torno indietro allora, dai. Va bene, al tramonto vi fate dire la strada per salire sul promontorio, vi siete fatti dire? Mm-hmm. Allora, già dalla... No, mi fate un perception, intanto. Tutti. 11! Guarda che sto facendo i tiri. Io ho fatto un 20 naturale. 14! Io faccio 20 totale. Ok. 15. Bene. Laz e il vecchietto, i due piccoli, voi con i vostri occhietti da halfling, piano quella discriminazione, forse partendo da più in basso rispetto agli altri occhi, forse già dal porto vi rendete conto che effettivamente cioè non sapreste dire chi o cosa, però sembra esserci qualcuno sul promontorio, però siete molto lontani ora, però sembra esserci qualcuno che si staglia sul promontorio in questo momento. Però non sapesse da qui. Fate salire? Mm-hmm. Va bene. Salite il promontorio. Arrivate. Beh, lo facciamo sapere anche agli altri, dai, comunque. Non è che so che lo dico. È che sembra già esserci qualcuno sul promontorio. Short rest. Faccio uno short rest. Ma mentre camminiamo invece qualcuno mi porti in braccio. Vabbè, io lo ringrazio. Mentre camminiamo invece io... No, grazie, stiamo allerta allora. Per senso. Mentre camminiamo invece io vi dico che ho probabilmente individuato chi è stato a fare lo scherzo. Bravo. Ottimo. Lo so perché io non sono né cieco né sordo. Arrivate sul promontorio. Sul promontorio, in effetti, avrei trovato in un modo davanti a voi li avrei uccisi tutti in alternativa. Thunderwave nella camerata. Vedete in piedi su una delle ultime rocce del promontorio una ragazza, l'avete di spalle, dai capelli biondi. Sembra con una pelle, mi sembra abbastanza pallida, molto gracilina. Noi siamo. Io ormai. Siete lì, ce l'avete davanti. girata. Faccio qualche passo avanti con la lancia che fa rumore. Cioè, ha attaccato tutte le cose. Lei si volta, sentendo il rumore, verso di te lentamente. Ti squadra. Io faccio tipo due passi avanti. Ti squadra, tipo con un'area molto apatica. E poi si rigira verso il mare a contemplare. Ma abbiamo almeno la sensazione che sia eterea o reale. E dice qualcosa tipo il mare da qua sembra un grande specchio. Si farà una conoscenza religiosa. È una conoscenza no, beh, per capire se è uno spirito. Ah, ok, sì. Fammela. Cazzo, Giulio. Io le dico è un 4. È un 6. 6, ok, va bene. Vista così, a te non sembrerebbe uno spettro. Anche noi normalmente abbiamo la sensazione che sia reale. È molto pallida. Però non... L'ha detto il mare? Sì, il mare da qua sembra un grande specchio. Io dico, attenta che a rimirare troppo nell'abisso... Rischia che l'abisso mi io mi metto a piangere per la bellezza delle parole. Chi è Nietzsche? Rischi che l'abisso entri in te, no? Guardi. Ah. Ma chi è Nietzsche? Sì. È Quake. Anch'io ho studiato Nietzsche. Però... da qua sembra anche una cazzo di giacca di Armani, però purtroppo era tutta spiegazzata. Sì, a volte è così. Lei è proprio seduta allora, sul bordo delle rozze? No, in piedi, che guarda, sembra molto assente. Sono la sua immagine nell'acqua. È una domanda vera o una domanda las? Prendo uno specchio. Siamo tipo qui. È una domanda las. Una folata di vento isolata. Las, tirami un tiro salvezza sulla costituzione CD39. Proietta un'ombra. Lei? Sì, proietta un'ombra. A che distanza? Vedi, nonostante ho detto una cazzata che via, lui è venuto in mente l'ombra. Allora sei faccio un paio di passi col bastone e la tocco. No, io faccio per che razza di animali siete. Se lo vedo faccio per fermarlo. Ok, vedi Sceo che allunga il bastone. Sceo comunque mi sa che vinci tu il premio Prometheus del giorno. Per abbassare il bastone. Cerchiamo prima metodi meno. No, non volevo. Io voglio toccare. No, non si sa toccare. Mai. No, okay. Ma ci sta a vincere. Fagli vincere sto cazzo di premio Prometheus. Dai, fagli toccare la cosa. Okay. Sapete, a volte il promontorio mi parla. Sì. E mi parla cosa, spesso. E cosa dice? Purtroppo non lo certo che. Questo sole è così splendente. Questo mare. Chi sei? Ma è fatta. Chi sei? Chi? Ma papà. Le donne. Io mi chiamo Arabal. E voi? Arabal. Noi siamo... Io sono Arian. E voi, anche voi parli promontorio? In questo momento no, però non escludo che possa farlo. A volte mi chiama, mi dice di scendere. Sì. Tu perché non scendi? Mi hanno detto che è pericoloso scendere. No, è il sentiero. Avvicinati ragazzo, vieni verso di me. Bam, identificare. Cos'è? Identificare. Hai un incantesimo, non ho capito. No, però vorrei fare un suggerimento al paladino. Sì. Che ha una bellissima capacità per vedere i non morti o gli esterni. Divine sense, esatto. Grande. Non sono esterni. No, adesso. Io intanto ho detto, perché vieni qua, giovane? Avvicina. Lei continua. Non, tutto questo quando parla, guarda lontano. Molto male. E fa... Chissà se lì ci sarà una risposta a tutto questo. Lì dove? Della vista. Allora. Sembra ignorare la tua domanda. E poi dice... Il vento... A volte soffia così forte che non riesci neanche a stare in piedi qua. Ecco, nel dubbio io mi abbasso. Come mi ha... Ho odiato dei personaggi diversi! No! Come mi ha suggerito... Ah, aspetta, io ho l'incantesimo che fa una folata di vento. Thunderway! No, no, basta una folata di vento. Come mi ha suggerito il nostro saggio bardo. Uso i miei sensi divini. Io guardo un attimo verso di e nel raggio di 60 piedi conosco il tipo o celestiale o fiend o non morto e so la loro presenza ma non la loro identità e anche se c'è un oggetto o un posto che è stato consacrato o desacrato come nello spell, nell'incantesimo Hallow e niente, c'è un non morto, lo so. E vedi che Giulio è un cazzo di non morto. No. Fuoco. Lo curo tanto. Non ti sembra che ci siano non morti celestiali o Giulio di fianco a te? O Giulio? No, Giulio però è di fianco a te. Allora, vedi che alla fine mio... era l'unica cosa da fare. Bene, ragazzino. Chissà... C'è qualcosa che possiamo fare per consolare la tua pena e la tua... Vorrei... Tristezza. Vorrei andare giù, vorrei scoprire perché mi chiama. Ma perché non segui noi? Ci andiamo insieme. Scusa. Mi parla di cose oscure. Sì, la strada. Tipo? Dice che l'ombra è su di noi. L'ombra di Mordor. C'è qualcosa nell'acqua. Andiamo a provare. C'è qualcosa nella pietra. Una pietra c'è qualcosa nel vento. Sì, si sta messa peggio del Monaco. Aspetta, Galadriel è bionda. Da vedere sembrerebbe una ragazzina di 14-15 anni. Vestiti, eventuali oggetti addosso. È vestita abbastanza leggera con una tunica bianca. È vestita in controcorrente abbastanza... rispetto al clima. Eh? Vestita un po'. Cioè, che non ci sta. Mi avvicino fino a. Allora, scusa, Giulio, prima che fai, vi rispondo a scemo. Diciamo che stai andando sempre più a nord, quindi pur essendo. Tarda primavera, non fa così caldo. Però diciamo che sì, in realtà sì, è vestita leggera, sicuramente vestita leggera. Però sai, magari quelli dell'uomo sono più abituati alla temperatura. Mentre loro cazzeggiano. Scusa, stalla prima Giulio. No, ma io mi avvicinavo per aver essere alla distanza e poter mettere una mano sulla spalla, ma ancora non la faccio. Ok. Quando salgo. Salla? Io tiro fuori il liuto. E comincio a accordarlo. Din, din, din, din, din, din, din, din. E la cosa che faccio è il rituale Detect Magic, sentendo il suono come riverbera. Quindi sto lì, se loro fanno altro in questo tempo... Cosa fai il Detect Magic? Detect Magic dice che per la durata tu senti la presenza della magia a 30 piedi da te. E puoi usare la tua azione. Vuol dire che senti incantesimi o cos'altro? Puoi usare la tua azione per vedere un'aura debole attorno a tutte le creature visibili o oggetti che indossano o portano magia. E capisco anche la scuola della magia in questione. Oggetti portano magia, quindi anche se c'è qualcuno di voi che ne ha. In realtà sì. Ok. E può penetrare molte barriere, è bloccato da un piede di pietra. Non so quanto sia. Capisci in porta o solo dov'è? No, capisco. Aspetta, se è però coperto dal metallo non lo vedo, cioè non ha detto che lo vedo, e se è tre piedi di legno non lo vedo. Vedi un'aura intorno a un visibile creatura, oggetto. Sì, okay. Un oggetto magico, e capisco anche che natura ha la magia dell'oggetto. Tipo arcana, roba così. No, tipo la scuola di abiurazione, invocazione. Ok. Necromanzia. Cosa più complicato. Diciamo che vedi due segnali di magia, però non chiarissimi, quindi non capisci bene, provenienti sia da Laz sia da Asceo. Io volevo la tipa, che cazzo, di che scuola? La tipa non ha nessuna fonte di magia. Di che scuola? La scuola Salla, non riesce a capirla bene. Mi piace come citti così. Va bene. No, uno non riesce a capire proprio. L'altra, oddio, una roba per comunicare. Che magia è? Abiurazione. Dipende. Sarà divinazione? Sì, potrebbe essere. Ma secondo me no. Boh. Adesso controllo. Tipo... Vabbè, la tipa non fa niente. La tipa no. Tipo, io provo ad allungare un braccio verso la tipa. La tocchi? In quel momento. La tocchi? Sì. Quindi il premio Prometheus lo vince Giulio. Ma detto, la tocchi? Lei tipo improvvisamente, cioè non fa niente. Prendere il linguaggio. Si volta verso di te e ti guarda. E poi torna a guardare il mare. E fa... Chissà che cosa potrei trovare lì. Ma tipo i tuoi genitori dove sono? Chiaro. Nulla di buono, probabilmente. Io vorrei tanto scoprirlo. Come ti chiami? È Soila. Arabal. Hai un cognome, una famiglia, un casato, un titolo nobiliare. Vorrei davvero sapere che cosa c'è laggiù. Voi mi potreste portare lì? Sì. La spingo giù perché mi ero toccato. Vuoi fare la sfida? No. Sarebbe divertente. Sì, molto. Sono l'eroe. Sembra molto tipo tra l'assente e la pace, accende e spegne. Quando molte domande che gli fate non sembrano non sentirle. Sì, potremmo portarti giù, cerco di tipo, ultimo tentativo? Portarla. Ultimo tentativo. Non c'è, non è proprio sulla punta, è semplicemente verso questa parte finale del promontorio. Sì, non è che si sta per buttare. No, capito, ma è tipo a due passi dalla fine oppure a qualche metro. Perché se due passi cerco proprio di trascinare, se qualche metro mi avvicino solo di più. Sì, boh, qualche metro. Ok, mi avvicino solo di più, però tipo con una mano sulla spalla. Come rimorchio. La via sarebbe di là, e ti indica la parte opposta dove siete venuti. Ah, easy. Cioè, dobbiamo entrare indietro. No, scusa. Continuare la parte giù dritto. Voi siete arrivati alla parte della città, al promontorio. Buttarci di sotto. No. Lei dice, sembra di indicare come se ci fosse un sentiero che voi in questo momento non vedete, dall'altro lato. Andiamo. Posso vedere se ci sono tracce per terra? Va bene, ve lo mostrerò. Posso vedere se ci sono? Ma voi mi proteggerete se sarà necessario. Ragazzi, voglio vedere se ci sono tracce. Anticipo di qualche passo il sentito. E vedo se ci sono tracce di umani o no, bestie. O sopravvivenza, quindi posso usare sopravvivenza. Sì. 21. Sì, allora lei vi sta conducendo in questo sentiero, effettivamente è molto un ranger mascherato da mona. Esatto. Che lei, cioè, voi inizialmente non avevate notato, ma c'è. È un sentiero molto pietroso, non ti sembra che ci siano tracce di umani recenti. Ma neanche bestie o cose particolari, non noto niente. Puoi notare ogni tanto qualche nido di gabbiano. No, ma dicevo proprio di tracce sul terreno. su questo sentiero. No, perché comunque sotto le pietre, cioè non ne vedi, ecco, in questo momento non ti sembra. Sembra poco, veramente poco battuto, cioè non è quasi neanche un sentiero. Mi sorprende che lei lo sembra conoscerlo così bene. Ma siamo sicuri che dovrà andare così? Dipende se vuoi fare lo scontro o meno. Dipende quanto dura lo scontro, perché io tra un po' vi saluto. Infatti sono andato un po' tempo lungo, però come volete, se vuoi anche andare. Come volete voi. Io faccio un'ultima cosa, se posso, mentre sono lì che guardo, ci faccio anche un percezione per ascoltare eventualmente versi che si sentono nella direzione del dentro. Non importa che tiri. I versi sono quelli dei gabbiani, un po' il vento, normale. Niente di strano. Se la seguite, lei vi conduce giù da questo promontorio e vi tirate tutti i danni per la caduta. Non scherzo. E arrivate alla base. Ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non l'anticipo. Cioè, l'anticipo o non l'anticipo? Prima l'anticipavo per vedere il sentiero e poi la lascio passare. Comunque, la strada la faccio dire. Lei ogni tanto vi chiede l'aiuto per scendere. Ogni tanto continua a vaneggiare, a dire cose senza senso. Ragazzi, ho capito. Non guardare. Per qualche arrivate giù. Se no. Praticamente siete arrivati a livello del mare. E qui si apre davanti a voi, un po' c'entra anche l'acqua, quella che sembra una grotta. E lei fa, ecco, è qui dentro, e comincia ad andare dentro. La fermo. Aspetta. No, siamo ormai qua. Qua la risposta. Aspetta, adesso la grotta è buia. Sì. Lancio luce sulla punta della lanza. Sì, cosa succede? La luce? Sulla bambina. Fammi. Sì. Io non so voi, però io tra un po' devo andare anch'io, quindi possiamo anche finire qua e facciamo la prossima, come volete. Mi spiace che non sia arrivato un po' lungo. Vabbè, alla fine abbiamo giocato, non è che non abbiamo luce problemi. Splendente in un raggio di 20 piedi, e dim light per altri 20 piedi. 30 metri, quindi altri. La luce può essere colorata come voglio. E ricopre completamente l'oggetto. Ti prego, fai un lusso rosa fosforescente. Puoi farla stroboscopica? No, deve essere in colore. Ditemi voi, come volete fare? La faccio. Vabbè, decidono quelli che devono andare. Tu più o meno di. Sì, finiamo con la suspense dell'ingresso alla grotta. Diciamo che ci sta. Così chi ci segue avrà la voglia di vederci la prossima volta. Il combattimento un po' dura, sicuramente. Quello di un combattimento. No, il combattimento non riesco a farlo. Cioè, se volete andare avanti voi, indifferente, però io vado. Questo stoppiamo. Va bene. Abbiamo chiuso? Va bene, quindi siete all'ingresso, con Giulio che fa luce e state entrando nella grotta. La luce bianca. Cieco, guarda! Va bene. Questo era il secondo episodio di Coloni. Siamo arrivati, se non altro, al fatto che ci fosse la fanciulla. E abbiamo inserito due nuovi personaggi. Li abbiamo esclusi altri. Gli altri. Beh, uno si è escluso da solo. E ricordiamo che ci potete seguire sulla pagina e l'altro è Forza and Dragon. Uno si è qui citato e l'altro è sul podcast. Non volevo dire questo. Il podcast che è appunto quello GDR. Ringraziamo Laz per aver partecipato con noi, lo rivedremo spero presto, vi diamo appuntamento alle prossime sessioni, che non so bene, può essere che torneremo a fare Urban Heroes o altre cose, vediamo, dipenderà anche di settimana, visto che probabilmente non c'è Arci, possiamo fare questo invece il weekend. Marci c'è? Arci c'è per Urban Heroes sicuramente. Esatto. Poi decidete voi anche voi se cosa volete fare, eccetera. E Arci per Star Wars e Urban Heroes c'è. Poi io farei almeno un po' di sessioni con questo, prendere un po' di infilata se vi va. Io per me possiamo anche alternare. Schifo, siamo. Cioè, al di là delle presenze, ovviamente. Qua, sì. No, però io preferisco, cioè non so a voi, io di solito preferisco fare un po'. Bene, direi di chiudere il podcast, però. Sì, va bene. Salutiamo gli amici del podcast. Ciao ciao.